A tempo di sport di Giovanni Capuano. Rischia di essere una giornata assolutamente non banale, la giornata della Befana, la giornata del ritorno del campionato di Serie A dopo le feste natalizie. Rischia di essere una giornata assolutamente non banale, perché questi sono i risultati che stanno maturando sui campi quando siamo circa a un quarto d'ora dalla fine delle partite. Partiamo da Torino, dove la Juventus è sotto 2-1 con la Sampdoria, e pensate che la Juventus sta giocando in 11 contro 10 dalla mezz'ora del primo tempo per l'espulsione di Berardi. Juventus che vinceva grazie al rigore di Giovinco, 24esimo del primo tempo. Poi in questo secondo tempo, in cui la partita si è ribaltata, una doppietta di Icardi ha portato avanti la Sampdoria, dunque Juventus 1 Sampdoria 2, e siamo alla mezz'ora della ripresa. E poi è sotto in casa anche la Fiorentina a sorpresa contro il Pescara, 1-0 per gli abruzzesi, rete di Jonatas al 12esimo della ripresa, dopo che Perin con una lunga serie di miracoli aveva tenuto in partita il Pescara. Fiorentina che è sotto per 1-0. Gli altri gol, c'è da segnalare quello del Milan contro il Siena, Milan che sta facendo fatica ma con Bojan ha sbloccato un paio di minuti fa la situazione. Poi c'è il 2-0 del Genoa sul Bologna con doppietta di Boriello, il secondo gol proprio in questi istanti, e siamo al 28esimo della ripresa, dunque Genoa-Bologna 2-0. Il Chievo sta vincendo 1-0 con l'Atalanta, rete nel primo tempo di Coffi. E poi il Parma che sta battendo il Palermo 1-0, rete di Belfodil al 17esimo del secondo tempo. E non è stato banale nemmeno l'anticipo delle 12:30, perché l'Inter è crollata a Udine 3-0, partita che farà molto discutere anche per il durissimo sfogo, il durissimo attacco di Stramaccioni per la direzione di gara di Giannoccaro. 3-0 per l'Udinese, per l'Inter 8 punti nelle 8 partite dopo Torino. Questo è il quadro quando manca, e lo ricordiamo, circa un quarto d'ora alla fine delle gare. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, ma ne parliamo anche su Twitter, l'account è @CapuanoJo, e parleremo e molto oggi anche di razzismo, perché di pochi minuti fa l'attacco di Blatter al Milan, anche in casi di razzismo, di cori, di ululati, non si deve abbandonare il campo, ha detto il numero uno del calcio mondiale. Noi ne parleremo a partire dalle 18:20 con un ospite d'onore, con il responsabile del Viminale, dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive, Roberto Massucci, e quindi cercheremo di fare chiarezza. Io intanto saluto Pierluigi Pardo, collega di Mediaset Premium. Buon pomeriggio Pierluigi. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Come senti, il carnet è pieno oggi, è un pomeriggio assolutamente non banale, anche se è ancora festa. Tu sei reduce dalla telecronaca di Udinese-Inter. Sì, io sono sulla 4. Sei sulla 4. Sulla 23 credo ancora, insomma. Mm. Quasi a Venezia, sì, sono... pazzo, ma l'Inter... Male. Male forse è un po' eccessivo. Certo, quando non giochi male, perché per 60 minuti l'Inter non aveva giocato male secondo me, e perdi 3-0, paradossalmente è quasi più inquietante, perché vuol dire che non sei riuscito ad approfittare delle occasioni che hai costruito, e poi hai pagato in maniera molto pesante. La squadra, dopo quella mazzata doppia del gol più espulsione, si è completamente persa. A quel punto non è stata più in campo mentalmente, prima ancora che fisicamente. Sì, partita che si è decisa poco dopo il quarto d'ora del secondo tempo. L'Inter ha sbagliato molto, ha sbagliato un gol. Io non so come si può definire l'errore di Jonathan, a porta praticamente vuota, abbastanza simile a quello sciagurato di Livaia negli istanti finali di Inter-Genoa. Questi sono errori che segnano una stagione, io credo, al di là di quelle che poi possono essere le polemiche arbitrali. Assolutamente. Io credo che poi alla fine il calcio, la bellezza del calcio sta nel fatto che gli episodi sono spesso decisivi, soprattutto in partite equilibrate. Questa Udinese-Inter era assolutamente equilibrata, poteva girare da una parte o dall'altra. E Jonathan è stato schierato oggi un po' a sorpresa. Sicuramente l'Inter non è stata fortunata nelle ultime partite, su questo non ci sono dubbi. Però che ci si debba attendere qualcosa di più, io credo che sia normale. Io penso che la striscia di 10 vittorie consecutive tra campionato e Europa League aveva un po' illuso. L'Inter quelle partite le aveva vinte, però alcune le aveva vinte sugli episodi, sulla genialità dei singoli, insomma anche oggi Cassano ha costruito due o tre cose molto importanti, Guarin ha fatto il suo nel mezzo, però ecco, se poi la vicina storta, l'Inter oggi non era superiore all'Udinese, secondo me, e quindi alla fine probabilmente non doveva finire così, sicuramente non doveva finire così, e non sarebbe finita così se non ci fosse stata l'espulsione, però non ha fatto molto per legittimare la vittoria. Sì, partita che è girata sull'errore di Jonathan, poi nell'arco di un paio di minuti il gol di Di Natale, l'espulsione di Juan Jesus per un doppio giallo, il secondo assolutamente sacrosanto, ma io credo anche il primo, e a quel punto Inter in 10 contro 11 sotto di un gol che è naufragata e secondo me ha aperto una serie di interrogativi, alcuni sono stati posti anche a stramaccioni, il primo ad esempio sul mancato utilizzo di Snyder, lui si è difeso dicendo che Snyder comunque non era disponibile perché colto da un attacco influenzale, però è vero che la gestione nell'ultimo mese e mezzo dell'avvertenza con l'olandese è stata assolutamente suicida, perché a quest'Inter Snyder sarebbe servito e come, e forse sarebbe servito anche a Udine a mezzo servizio, se poi l'uomo che lancia 20 minuti dalla fine Duncan. Sicuramente, tra l'altro Snyder era stato protagonista proprio a Udine nella scorsa vittoria importante in chiave europea nel finale di stagione. Io penso questo, che l'Inter a un certo punto si è illusa di poter fare a meno di Snyder, e probabilmente due mesi e mezzo fa questo discorso poteva avere una sua logica, anzi in quel momento con i meccanismi che funzionavano una figura come quella di Snyder rischiava di complicare gli equilibri tecnici, proprio come era successo l'anno scorso, ricorderete che lo scorso anno insomma Ranieri trovò un equilibrio col 4-4-2, poi nel momento nel quale Snyder tornò disponibile in preda giustamente alla voglia di crescere, di migliorare la squadra, poi nacquero i problemi, quindi però adesso onestamente è molto difficile poter prescindere per l'Inter di questo tempo dal talento di Snyder, perché l'Inter veramente non ne ha molto di talento in questo momento, è una buona squadra muscolare in mezzo al campo, Guarin è sempre abbastanza ispirato, ma per il resto ci sono poche idee, c'è qualche genialata di Cassano e poco altro in questo momento. Sì, se poi alle genialate di Cassano non segue anche una finalizzazione accettabile, e oggi è stata inaccettabile non solo per l'errore di Jonathan ma anche per il comportamento di Palacio sotto porta, anche nell'occasione che ha fatto esplodere e protestare stramaccioni, quella della mancata concessione del calcio di rigore nel primo tempo, in fondo alla fine Palacio va giù quando probabilmente sarebbe stato più produttivo restare in piedi, ma la moviola la facciamo a partire dalle 17:05 sì, no, con Graziano Cesari, che c'è il fuorigioco, tra l'altro. Ecco, che c'è il fuorigioco, poi alla fine, come spesso succede, per carità, gli arbitri sono umani, guardaline, insomma, con la segnalazione del fuorigioco si sarebbe evitato tutto, si sarebbe evitato la protesta, si sarebbe evitato il cartellino giallo, che comunque in qualche modo ha penalizzato l'Inter, non ci sono dubbi. Per me quella non è simulazione. Poi probabilmente il contatto è talmente lieve che il rigore si può non dare. Io sono dell'idea che, insomma, se io avessi fatto l'arbitro, l'avrei rivisto 20 volte, al di là del fatto che era fuori gioco e quello qui doveva interrompere tutto, secondo me c'è una terza via, che è quella del mezzo. Il fatto che c'è un contatto, che è un contatto molto lieve, perché la mano di Domizio c'è sul corpo di Palacio, però si può decidere benissimo di non dare il rigore, perché evidentemente non lo si considera abbastanza per poter dare il danno procurato, però proprio non c'è nemmeno la situazione. Poi che Palacio con le gambe cade in maniera un pochino... Sì, cade in maniera innaturale, di sicuro il dubbio lo lascia, di essersi fatto cadere. Il dubbio c'è perché sappiamo benissimo anche che quando tu sei in corsa e comunque prendi una posizione di vantaggio, se c'è un contatto anche minimo, quel contatto sulla corsa si può sbilanciare. A me sembra veramente un contatto minimo, lo dico sinceramente. Sì, sono sottoscrivo assolutamente. Secondo me non era né rigore né simulazione, ma soprattutto era fuori gioco. Sì, sottoscrivo assolutamente, e questo introduce il secondo ragionamento sul momento dell'Inter, che è quello del nervosismo. Avevamo lasciato stramaccioni, scusa, e l'Inter tutta abbastanza nervosi prima di Natale, li ritroviamo così alla stessa maniera oggi, dopo due settimane abbondanti di vacanza, e io credo che questo sia un campanello d'allarme abbastanza preoccupante per l'Inter, e probabilmente anche Moratti avrà bisogno di farsi sentire nelle prossime giornate. Intanto c'è un calcio di rigore per il Milan a San Siro contro il Siena. Pierluigi? Ma guarda, io penso questo, che è da un po' di tempo, innanzitutto interrompiti appena sappiamo il rigore, è da un po' di tempo che l'Inter è in affanno nel rapporto con gli arbitri. Fra l'altro c'è stato, credo sia il record assoluto di squalifiche per episodi che riguardano proteste al di fuori dei 90 minuti canonici. Sì, l'Inter ha avuto 3 squalificati in 6 giornate senza che fosse alzato un cartellino rosso in campo. Esatto, Inter-Cagliari, ovviamente Lazio-Inter e poi l'episodio di Ranocchia. Quindi questo è abbastanza clamoroso. Però non so se all'Inter tutto sommato conviene questo tipo di meccanismo, nel senso che poi il fatto di sentirsi tra virgolette accerchiati, che è stata una chiave psicologica che Mourinho per esempio era riuscito a usare in maniera straordinaria dal suo punto di vista, però con altri uomini, personaggi, esatto. non sempre può bastare, ecco. Io credo che sia una chiave psicologica che in certi momenti possa funzionare, però poi alla lunga può rischiare invece di creare nervosismo e basta. Intanto 2-0, Pazzini su calcio di rigore, e quindi Milan che mette in ghiaccio la partita e a questo punto fa un passo anche importante avanti in classifica, perché il Milan in questo momento è a quota 30 e si trova addirittura a 5 punti dalla zona Champions, perché la classifica dice Juventus 44, Lazio 39, Fiorentina Inter 35, Napoli 34, Roma 32, Milan 30. Manca ovviamente, oltre a l'ultimo quarto d'ora di gara di questo pomeriggio, manca anche Napoli-Roma di questa sera, però certamente questo è uno sviluppo importante per la stagione del Milan, che sembrava una stagione compromessa sino a un mese fa. Intanto c'è anche il pareggio del Palermo, 40esimo del secondo tempo, 1-1 a Parma, ha segnato Igor Budan, e dunque 1-1 del Palermo, mentre è sempre sotto 2-1 la Juventus in casa contro la Sampdoria e sotto 1-0 la Fiorentina in casa contro il Pescara, e poi 1-0 del Chievo sull'Atalanta e 2-0 del Genoa sul Bologna. Per chiudere, per Luigi, l'ultima riflessione, sì, sull'Inter, che è crollata negli ultimi 20 minuti. È vero che era in 10 uomini, ma è letteralmente crollata anche dal punto di vista fisico. A me, ma lo abbiamo detto anche prima delle vacanze, ha lasciato molto perplessa la scelta di tornare a lavorare soltanto il 2 gennaio, e cioè con 2 giorni e mezzo di allenamento prima di una trasferta difficile come quella di Udine. Se poi aggiungi che scopri che Milito ha un affaticamento muscolare e di fatto giochi senza prima punta, io credo che questa possa essere classificata come una scelta sbagliata, chiunque l'abbia presa. Assolutamente d'accordo. Ci sia stato il tentativo, diciamo, di premiare una squadra che si stava allenando ovviamente dall'inizio di luglio, perché con il preliminare di Europa League ovviamente i carichi di lavoro sono arrivati da subito, però insomma ce ne dobbiamo valutare oggi. Prima delle 12:30 avevamo qualche sospetto, oggi abbiamo la certezza, insomma, che non sia stata la scelta più giusta. Io credo che l'Inter debba ritrovare una sua normalità, una sua serenità, perché il momento dell'adrenalina e dell'accerchiamento, del soli contro tutti, delle dichiarazioni comunque stizzite, con la cresta alta dopo la grande contro la Juve, in questo momento con la squadra che è un po' più fragile rischiano di essere un boomerang. Una cosa velocissima sul Milan: come cambiano le strategie. Un mese e mezzo fa il Milan poteva guardare alla Champions, anche semplicemente un mese fa, alla Champions come la sua unica prospettiva. Oggi il paradosso è che in Champions la strada è un po' più complicata, perché insomma, onestamente, il Barcellona è difficile da superare, e in campionato invece la situazione può essere completamente diversa, e credo che questo possa in qualche modo anche condizionare il mercato, perché è ovvio che certi giocatori da Champions, che hanno giocato in Champions League e che quindi sono evidentemente indisponibili per la Champions, possono tornare in qualche modo di moda, perché il campionato torna a essere, secondo me, la priorità del Milan. Sì, certamente, se c'è da fare un sacrificio, io credo che a questo punto il Milan lo farà, anche perché più che un sacrificio può essere un investimento. Qualificarsi in Champions, ricordiamo, significa mettere a bilancio, nel prossimo bilancio, dai 25 ai 30 milioni di euro. Grazie per Luigi Pardo. Grazie a voi, ciao. Grazie per Luigi Pardo, collega di Mediaset Premium di ritorno da Udine, dove ha raccontato il crollo dell'Inter 3-0 contro l'Udinese. Siamo negli ultimi minuti, noi ci dobbiamo fermare per il traffico. Io ricordo il numero di telefono 800 24 00 24 per dirci che cosa ne pensate della caduta dell'Inter, di quello che sta succedendo in questi minuti a Torino, dove la Juventus è sotto 2-1 contro la Sampdoria, pur essendo in superiorità numerica da un'ora per l'espulsione di Berardi. E vi annuncio, vi anticipo che questa è una partita per la quale si discuterà molto, anche per quelle che sono state le decisioni dell'arbitro Di Valeri, che soprattutto nel primo tempo ha penalizzato e non poco la Juventus. Quindi diteci che cosa ne pensate, e poi sempre aperto il tema del razzismo, e ne parleremo a partire dalle 18:20. 800 24 00 24, le vostre telefonate, noi ci fermiamo, c'è il traffico. A tempo di sport. Siamo davvero agli sgoccioli su tutti i campi. Rapidamente i risultati: Juventus sotto 2-1 con la Sampdoria, Milan avanti 2-0 con il Siena, Chievo Atalanta 1-0, Fiorentina Pescara 0-1, Genoa Bologna 2-0, Parma Palermo 1-1. Nell'anticipo delle 12:30 l'Inter ha perso 3-0 a Udine. Ne abbiamo appena parlato con Pierluigi Pardo, collega di Mediaset Premium, che ha raccontato la partita dell'Inter battuta, e lo ricordiamo ancora, 3-0 dall'Udinese. Siamo addirittura in tempo di recupero in questo momento a Torino, e c'è a terra Marchisio. È un pomeriggio difficile per la Juventus, che nel primo tempo sembrava destinata a governare e a dominare la partita, anche per la superiorità numerica, per l'espulsione alla mezz'ora di Berardi. Invece in questo secondo tempo sta soffrendo, e molto, al di là dei due gol, il primo dei quali certamente un mezzo regalo di Buffon a Icardi. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Saluto il direttore del quotidiano Sportivo Enzo Bucchioni. Buon pomeriggio Enzo. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Ben ritrovati. Meno male che doveva essere una giornata interlocutoria, con ancora il Pandoro da smaltire, con i regali delle calze della Befana. Guarda qui invece che giornata sta venendo fuori. Beh, hai detto bene, questo era un classico modo di dire degli anni 60, quando le televisioni non si vedevano e i cronisti, non sapendo cosa dire, è rimasto il panettone sullo stomaco. Questo veramente potrebbe essere ripreso. Tanto ha segnato il Siena, 42esimo del primo tempo, Paolucci, Milan 2, Siena 1. Prego Enzo. Sì, succede spesso, perché magari qualche squadra ha fatto una ripresa di preparazione, qualcuno è imballata, un po' di concentrazione che viene a mancare, eccoti lì. Poi anche, secondo me, la Juventus è cambiata anche troppo, forse si è illuso un po' della Sampdoria, si è ritrovata invece una squadra diversa da quella che avevamo lasciato. Insomma, problemi ce l'hanno tutte le grandi, potrebbero essere accomunate nelle distanze e non risentire nessuno, questa potrebbe essere la morale, anche se stasera deve approfittare il Napoli a questo punto. Sì, perché a questo punto le difficoltà della Juventus, siamo in tempo di recupero, la partita non è ancora finita, però dovesse andare a finire così o anche solo con un pareggio, di fatto un pizzico riaprono questa corsa di vertice che avevamo dato tutti per chiusa. Intanto c'è però il raddoppio, pensate, del Pescara a Firenze, quindi 90esimo minuto, 2-0 del Pescara contro la Fiorentina, che a questo punto cade clamorosamente. Ha segnato Selic, cade clamorosamente anche per come si era messa la partita nel primo tempo. Dicevo, la caduta della Juventus riapre sicuramente quelli che sono i discorsi di vertice, perché accorcia la classifica, perché soltanto Inter e Fiorentina fin qui non ne hanno approfittato. Poi vediamo il Napoli questa sera, e dicevamo prima addirittura c'è il Milan che si riaffaccia in una zona utile per pensare a una qualificazione in Champions League. Sì, assolutamente, questo è il dato più importante se guardiamo le grandi. Una grande che può rientrare è sicuramente il Milan, perché questi risultati sono incredibili. Pensavamo alla batosta dell'Inter a mezzogiorno, invece questa sconfitta, almeno per ora, della Juventus, come dicevi tu, riapre i giochi per tanti e tiene il campionato molto compresso e più avvincente. Sembrava una giornata di passaggio, anche perché erano le grandi in sostanza contro squadre minori. Anche la Fiorentina è clamorosa, perché il primo tempo l'ha assolutamente dominato, il portiere Perin ha parato di tutto, poi evidentemente ha concesso campo ai contropiedi del Pescara. È un'altra giornata, troppe feste anche per l'arrivo di Pepito Rossi, insomma c'è stato tutto un post natalizio che stanno pagando in tanti. Intanto c'è la mia squadra preferita di questa prima metà di campionato, il Parma, 2-1 sul Palermo, rete al 48esimo del secondo tempo, ha segnato Amauri, per lui quinto gol stagionale. Il Parma in questo momento, Enzo, ha 29 punti. Credo che si parli troppo poco di Donadoni e di questa squadra, di quello che sta facendo in questa prima metà del campionato e che ha fatto in fondo anche nella seconda metà del campionato scorso, cioè da quando Donadoni si è seduto sulla panchina e ha viaggiato a ritmo da qualificazioni in Europa League. Sì, assolutamente, sta facendo delle cose molto importanti Donadoni, non da oggi. Ha pagato la nazionale Donadoni, forse gliel'hanno data troppo presto e quell'esperienza lì l'ha un pochino segnato, ha segnato un po' la sua carriera, però sta dimostrando a Parma veramente di essere un allenatore di grande qualità. Non ha una squadra straordinaria, eppure gioca un calcio divertente con risultati eccellenti. Sicuramente quando poi si parla di allenatori per il Milan, per il futuro, questo Donadoni, questo nome non viene mai preso in considerazione, sia un errore, perché sta dimostrando di essere pronto per una grande. Sì, quello della Fiorentina come lo giudichi? Un passo falso che può anche essere un segnale di crescita, o c'è una certa tendenza? Perché la Fiorentina anche prima di Natale stava facendo fatica, era stato legato tutto all'assenza di Jovetic, che certamente era importante. Oggi Jovetic c'è, dicono le cronache, da quello che si è potuto capire non è stato il migliore in campo certamente di questa Fiorentina. L'impressione è che forse la Fiorentina è la squadra che sul mercato di gennaio può fare un salto di qualità. Sì, dovrà farlo, perché ha degli obiettivi a portata di mano, parlo di un posto in Champions o anche in Europa League, che poi era la meta dell'estate scorsa. Ora, siccome le cose stanno concretizzandosi, io credo che la società interverrà di sicuro per un centrocampista, un attaccante. La Fiorentina mi sembra un po' spenta fisicamente rispetto a un paio di mesi fa, meno brillante, e paga soprattutto contro squadre come il Pescara, che hanno fatto le barricate. Il Pescara ha giocato la sua partita, onestamente, senza togliere nulla, però sempre 10 uomini dietro la palla e poi ripartenze di contropiede. Nel primo tempo non ha funzionato, nel secondo, quando la Fiorentina ha concesso ancora più campo, è andata in gol addirittura 2 volte. La Fiorentina un pochino con poche idee rispetto a 2 o 3 mesi fa, e forse il calcio ballato, come si dice alla spagnola, hanno trovato gli altri, hanno trovato le contromisure, e se vai a Pizarro e Borja Valero gli dà meno spazio, diventa più prevedibile la Fiorentina. Sì, è un po' il problema che ogni tanto trova anche il Barcellona quando si va troppo in orizzontale, bello da vedere ma rischia di essere poco redditizio. La Fiorentina sin qui di fatto non ha avuto una punta da 15-20 gol, aveva sopperito con la stagione straordinaria di Toni, con i gol di Jovetic, però è vero che evidentemente è bastato calare appena anche dal punto di vista della condizione fisica per poi trovare problemi a concretizzare questa superiorità. Intanto è finita a Torino e la Sampdoria ha vinto per 2-1, e quindi questa è certamente la grandissima sorpresa di questa 19ª giornata. Si sta giocando invece ancora a Milano, si gioca ancora a Firenze, e ricordiamo la Fiorentina è sotto 2-0 con il Pescara, mentre il Milan sta vincendo, ma in questi ultimi istanti di gioco sta soffrendo, sta vincendo 2-1 contro il Siena, che ha riaperto la partita con Paolucci. Per chiudere, Enzo, Stramaccioni 8 punti nelle 8 partite dopo la vittoria contro la Juventus a Torino. Io lancio una provocazione, poi voglio sapere anche cosa ne pensate voi a casa. 800 24 00 24, a ottobre con 7 punti in 8 partite Allegri era un allenatore da esonero per tutti, nessuno pensava di poterlo salvare sulla panchina del Milan. Secondo te è arrivato il momento di aprire un ragionamento anche su Stramaccioni? Ma secondo me sì, ma non da oggi, perché l'Inter, io ho sempre chiamato questo allenatore Strapattoni, perché gioca l'Inter un calcio degli anni 70, come giocava Trapattoni, e Trapattoni è stato un mito del calcio, erano altri tempi. Riportare oggi un calcio del genere non ha senso. L'Inter ha giocato sui giocatori più importanti che ha fatto tutto, Stramaccioni ha lavorato tutto su quei 4-5 campioni che restano della grande Inter. Quando si sono spenti loro, quando sono calati loro, l'Inter è scomparsa. Ma era successo anche l'anno scorso, si sono illusi all'Inter di poter fare un grande campionato. L'anno scorso, ricorderete, con Ranieri in panchina ci furono, mi pare, 10 risultati utili consecutivi, come ha fatto Stramaccioni. Ci furono 7 vittorie consecutive, e poi dopo l'Inter entrò in un momento di crisi. Le 7 vittorie sono servite a fare un finale di stagione dignitoso, e poi è arrivata la qualificazione all'Europa League, però c'è stato un momento in cui l'Inter si era illusa di poter anche pensare a una rincorsa alla Juventus. Ma sì, ma poi quando calano Samuel, quando calano Milito e Cambiasso, Zanetti, e non possono far altro, perché con l'età che hanno non possono durare per tutta la stagione, trovi una squadra normalissima, anzi con alcuni giocatori secondo me non da Inter, e quest'anno in più con un allenatore che non è preparato a gestire situazioni difficili perché non ha l'esperienza necessaria. Grazie Enzo. Grazie a voi tutti, buon pomeriggio. Grazie a Enzo Bucchioni, direttore del QS. Intanto è appena finita San Siro, Dario Ricci. Sì, buon pomeriggio da San Siro. Il Milan vince 2-1 sul Siena nella gara che aveva un significato particolare, anche perché si tornava a San Siro dopo i fattacci di Pulso a Tizio, e bene, il Milan ha indossato nel riscaldamento una maglia contro il razzismo. Applauso per Bateng, che ha contraccambiato la curva rossonera. Poi in campo è arrivato il 2-1 grazie alle reti al 22esimo del secondo tempo di Bojan, su cross dello stesso Boateng. Al 35esimo calcio di rigore di Fazzini per uno, in seguito a uno scontro tra lo stesso Fazzini e Felipe, per Calvarese era assegnato il penalty piuttosto generoso, 2-0. Poi a 3 minuti dalla fine il colpo di testa di Paolucci a far soffrire i rossoneri fino al fischio finale, 2-1 poi per il Milan, via San Siro contro il Siena. Sì, mi sembra che sia un Milan, Dario, dando un'occhiata alla classifica, che da oggi ha davanti a sé prospettive di un girone di ritorno forse insperato un mese fa. È soltanto a 5 punti dal terzo posto, è vero che manca ancora la partita del Napoli e quindi i punti potrebbero essere 7, ma stiamo davvero ragionando su una prospettiva che non esisteva. Assolutamente sì, perché questi 3 punti pesano parecchio, non a caso, chiaramente con una buona dose d'ottimismo, il pubblico rossonero si è scaldato alle notizie che arrivavano da Torino. Beh, forse pensare a un inseguimento della Juventus è eccessivo, ma è chiaro che questi 3 punti rilanciano il diavolo in una posizione di classifica direi parecchio interessante alla luce del calendario che aspetto ora i rossoneri. Sì, c'è un mese di gennaio decisivo, e sarà un mese di gennaio decisivo anche per la Juventus, che probabilmente contava di aver messo in ghiaccio questo campionato e invece deve di nuovo ragionare su una situazione che l'ha vista perdere la terza partita in questo campionato, 3 partite perse nel girone d'andata, una squadra che l'anno scorso aveva terminato la stagione in battuta. Io credo che qualche riflessione andrà fatta. Grazie a Dario Ricci, torneremo tra poco a San Siro in sala stampa anche con i tuoi ospiti. Noi ci fermiamo, 800 24 00 24, per le vostre chiamate in diretta. L'Inter, la Juventus, il razzismo, gli arbitri, diteci che cosa ne pensate. Ci fermiamo per il GR e torniamo con la moviola di Graziano Cesari. A tempo di sport. Che bella la classifica di Serie A alla fine del girone d'andata, ve la leggo: Juventus 44 punti, Lazio 39, Fiorentina Inter 35, Napoli 34, Roma 32, e alle 20:45 c'è proprio la sfida tra Napoli e Roma. Poi Milan 30, questo per le posizioni di vertice, quindi ci sono la bellezza di 5 squadre racchiuse in 5 punti in questo momento per giocarsi la terza posizione, che vale il pass per la Champions League. In questo momento la Lazio è l'anti-Juventus ed è staccata di sole 5 lunghezze dai bianconeri, che sono caduti in casa a Torino di rimonta contro la Sampdoria 2-1, gara che farà molto discutere. Andiamo a vedere in coda la classifica: c'è il Siena, fanalino di coda, a 11 punti in questo momento. Le retrocesse sarebbero Cagliari 16 e Palermo 15, oltre al Siena, ma attenzione, perché anche qui c'è un campionato nel campionato: Torino, Sampdoria e Pescara 20 punti, Bologna 18, Genoa 17, Genoa che si è risollevato battendo 2-0 il Bologna, doppietta di Borriello. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure su Twitter l'account è @CapuanoGio. E io saluto Graziano Cesari, moviolista di Mediaset Premium. Ciao Graziano. Ciao Giovanni, tanti auguri a tutti. Auguri anche a te. Ho l'impressione che dovremo lavorare molto oggi per la nostra moviola, Graziano. Allora, dovremo lavorare molto, e se sei d'accordo io partirei proprio da Juventus-Sampdoria, poi parleremo anche di Udinese-Inter. Juventus-Sampdoria che a mio parere è una partita condizionata molto dall'arbitraggio di Valeri. Andiamo con ordine: calcio di rigore 24esimo del primo tempo per un fallo su Marchisio, poi realizza Giovinco, il fallo è di Berardi che viene anche ammonito. Graziano, è un rigore nettissimo perché Berardi scioccamente, ingenuamente va a atterrare l'attaccante, il centrocampista della Juventus, che aveva le spalle alla porta di Romero. In questo intervento col piede destro sulle gambe di Marchisio è da punire. È giusta in questo caso la decisione del direttore di gara, è giusta quella di sanzionarlo col cartellino giallo, intervento imprudente. Questo cartellino giallo pesa perché 7 minuti più tardi Berardi a 70 metri dalla porta della Sampdoria entra su Barzagli e viene nuovamente ammonito da Valeri e a quel punto lascia la Sampdoria in 10. E qui non c'è nulla da dire, perché l'intervento di Berardi è un intervento assolutamente al di fuori del regolamento, in una zona del campo assolutamente ininfluente, va direttamente su Barzagli, l'intervento di scivolata è sicuramente un intervento pericoloso, in questo caso prende anche le gambe del giocatore del centrale della difesa della Juventus, inevitabile il secondo giallo. Quindi inevitabile l'espulsione. A questo punto è in 10 uomini la Sampdoria e la Juventus reclama un calcio di rigore, un altro calcio di rigore. Siamo al 35esimo del primo tempo. C'è una sorta di tamponamento, un contatto in area di rigore tra Palombo e Matri. Con Matri che è in vantaggio perché è proprietario del pallone, Palombo è alle spalle. Non parlerei tanto di spinta di Palombo quanto il piede destro di Palombo che va sul piede di Matri. A questo punto, a mio parere, ci stava il calcio di rigore, così come ci stava la chiara occasione da rete. E inevitabilmente la Sampdoria sarebbe rimasta in 9. Ecco, quindi la decisione di Valeri è pesante, perché al di là del calcio di rigore avrebbe lasciato la Sampdoria in 9. Ultimo minuto del primo tempo, c'è una trattenuta a mio parere netta di Gastaldello su Bonucci all'interno dell'area di rigore. Più che la trattenuta è proprio un abbraccio, entrambe le mani di Gastaldello, le braccia di Gastaldello che vanno a cingere la vita di Bonucci, e quindi non si può assolutamente muovere. In questo caso era un altro calcio di rigore con un Bonucci che rischia moltissimo, perché ci ha ammonito, si attarda a protestare. Sì, si attarda a protestare, però direi sacrosante le proteste della Juventus, perché sinceramente questo è un primo tempo che la Juventus avrebbe potuto serenamente chiudere. Poi c'è il discorso tecnico. Permettimi una cosa, al 26esimo del primo tempo c'è stata una rete annullata ed era per un eventuale fallo su Buffon. Per un contatto su Buffon. E le immagini non chiariscono, siamo nell'area di porta, quindi l'area piccola, quella dei 5,50, Buffon e Der saltano, a mio parere in modo regolare, il gol viene assolutamente annullato. Inspiegabile. Sì, però c'è un braccio largo di Eder, c'è un braccio che largo, in qualche modo può probabilmente spingere Valeri a fischiare, perché poi siamo così vicini alla porta. Esatto. Che aiutaci tu a capire qual è l'area in cui un portiere è praticamente intoccabile. Assolutamente intoccabile, quella è l'area di proprietà del portiere, però non credo che questo braccio possa in qualche modo influenzare anche per la diversità di stazza fisica tra Eder e Buffon. Comunque possiamo giudicare complessivamente negativo l'arbitraggio di Valeri oggi a Torino. Senza ombra di dubbio possiamo veramente giudicarlo insufficiente, pesantemente insufficiente. Devo dire che Valeri non sta facendo molto molto bene. No, Valeri è l'arbitro del derby di San Siro, per intenderci. Esatto. Altra partita gravemente condizionata. Sentiamo Deglio Rossi, Sky Sport, da Torino. Nella prima in classifica di una squadra veramente forte, vai sotto e rimani in 10, e ci voleva tutta la bravura di sti ragazzi per riuscire a recuperare una partita del genere. E anche ci voleva anche un di allenatore che Deglio nell'intervallo Rossi, sì, Giovanni. Sì, dicevo, ci voleva anche un allenatore che nell'intervallo infondesse questo coraggio, perché insomma sembrava una partita morta. No, morta no, anche perché noi eravamo in partita. Cioè, morta nel senso che comunque contro la Juventus in 10 contro 11, con sì, sotto, di un gol, sotto di un gol, effettivamente un sembrava una partita per segnata. Sentiamo ancora Deglio Rossi. Nervisaldi, cosa ha detto ai ragazzi negli spogliatoi? No, ha fatto un aggiustamento tattico, siamo passati alla difesa 4, abbiamo giocato un 4-3-1-1, però loro l'hanno interpretata bene, anche perché io non ho mai pensato che vincano i sistemi di gioco, ho sempre pensato che vincano i calciatori, e quindi oggi sono stati molto bravi. Sì, oggi la Sampdoria, Graziano, è stata certamente una squadra che ci ha creduto, perché poi al di là degli errori di Valeri, e ne abbiamo parlato ed era giusto partire da qui e sottolinearli, c'è da dire che nel secondo tempo la Juventus si è sciolta, c'è anche la complicità di Buffon soprattutto sul primo gol di Icardi. Ma è stata pesantemente in difficoltà, se mi permetti Giovanni, soprattutto sui contropiedi della Sampdoria, quando dovevano essere affrontati gli attaccanti, in questo caso Eder che ha creato scompiglio sempre comunque dalla difesa della Juventus, e lo stesso Icardi che ha fatto un secondo gol meraviglioso da attaccante di razza, da attaccante di punta, proprio bucando Buffon in un modo indescrivibile. Devo dire che è stata una prestazione eccezionale da parte della Sampdoria, al di là di quella della direzione di gara arbitrale. E permettimi una cosa, soluzione, Palombo centrale, Palombo recuperato, Palombo che dopo un anno non gioca, è stata un'intuizione di Delio Rossi. Sì, è stata un'intuizione di Delio Rossi, e se posso permettermi, è qui anche la differenza tra un allenatore di peso e di esperienza che arriva e in qualche modo chiede e spinge la società a reintegrare un giocatore che era fuori per motivi di vertenza contrattuale. A me vedere Palombo oggi in campo in quella posizione così decisiva ha ricordato e ha fatto venire in mente che cosa avrebbe potuto essere nell'ultimo mese e mezzo l'Inter con Sneijder in campo, se Stramaccioni non avesse messo il suo cappello tecnico dicendo che era una scelta sua, perché in questo momento Sneijder non è utile all'Inter. Questa sarà una delle grandi domande: il perché non Sneijder recuperato e perché non Sneijder inserito di nuovo in squadra, quando abbiamo visto come a Udine l'Inter ha avuto grandissimi problemi di tenuta fisica e soprattutto di fantasia. Graziano, abbiamo un minuto di traffico, poi la moviola di Udinese Inter. A tempo di sport. Ancora parlando degli Orossi a Torino, soddisfatto, e non potrebbe essere diversamente. Qualche messaggio che è arrivato al 349-238-6666. L'Inter, al contrario del Milan, ha sbagliato la campagna acquisti dei giovani, questo è il vero problema. E poi ancora, i risultati di oggi dimostrano che non c'è un metodo efficace di preparazione durante il periodo natalizio. Juventus ed Inter, con allenamenti opposti, hanno entrambe fallito. E poi Max da Milano, perché non si ha il coraggio di dire che sta sbagliando tutto Branca. E poi Paolo su Twitter, @CapuanoJo, questa è stata una giornata fantastica, forza Milan. E certamente il Milan esce rilanciato da quest'ultima giornata del girone d'andata. Andiamo a Udine, Graziano. Udinese Inter 3-0, ti faccio sentire lo sfogo di Stramaccioni a fine partita. Stramaccioni: è strano, dai, è strano, perché il mio giocatore Rodrigo Palacio, a parte che è un giocatore correttissimo, è davanti alla porta, lui sente la mano di Domizzi sul collo che lo sbilancia, è normale che lui gli taglia volontariamente la strada, lui gli taglia la strada per tagliarlo fuori, e Domizzi gli mette la mano sul collo, lo sbilancia sulla parte destra con cui lui avrebbe dovuto calciare, ma questo è rigore e espulsione, cioè io non capisco, e ho preso anche la munizione del giocatore. Penso che gli arbitri siano assolutamente in buona fede, facciano il loro lavoro, però è innegabile che noi sono tantissime partite che ci sono valutazioni, purtroppo io le chiamo sfortunate, perché io ho parlato anche con l'arbitro, cioè non credo assolutamente non credo alla malafede, ma non puoi dare un rigore, non puoi non dare un rigore così. Palacio è davanti al portiere, la palla sul destro, Domizzi lo sbilancia. Non so se può servire come consolazione, però da queste immagini si vede che forse la partenza di Palacio è in lieve, sì, fuori gioco. Sì, Sara, ascolta, fischia fuori gioco, allora è meglio. Fischia fuori gioco, arrabbiare di meno. Perché se succede quello dopo è calcio di rigore ed espulsione, e cambia la partita, cambiano le partite. Questo, Graziano, è Stramaccioni dopo la partita. Proviamo a scomporre in due l'episodio. Certo. È inevitabile che dobbiamo scomporre, perché è un episodio talmente complicato dove c'è una somma di errori veramente da descrivere in modo pazzesco. Primo episodio: fuori gioco pure no sulla partita di Palacio? Assolutamente sì, sicuramente difficile, sicuramente da valutare, ma la posizione è di circa mezzo metro al di là della difensiva dell'Udinese. E con questo diciamo, e lo diciamo chiaramente, che quindi l'eventuale errore, e adesso ne parliamo, di Giannoccaro invece sul contatto fra Domizzi e Palacio non ha condizionato questa partita, perché quella era un'azione che doveva essere fermata per fuorigioco. Adesso in questa scomposizione invece ragioniamo sul contatto fra Domizzi e Palacio. E andiamo a vedere cosa è successo. Proprietario del pallone è Palacio, che si avvia verso l'area di Friulana. In questo caso c'è Domizzi, sicuramente gli commette un fallo alto, che abbiamo sentito la mano sul collo di Domizzi su Palacio, e un fallo basso. Qual è più importante? A mio parere il fallo basso, che avviene appena fuori dall'area di rigore, quindi non possiamo parlare di calcio di rigore, perché quello secondo me è un momento in cui si concretizza un'azione scorretta che non permette poi la prosecuzione dell'azione, ed è un fallo basso di Domizzi, ed è il ginocchio di Domizzi che va sulla gamba di Palacio, che avviene al di fuori dell'area di rigore. In quel momento si deve interrompere l'azione, quindi sarebbe calcio di punizione per l'Inter più il cartellino rosso, perché siamo in presenza di una chiara occasione da rete. il tutto se non fosse che Palacio è in fuorigioco. Esatto. Allargando il discorso, io voglio però dire anche che la caduta di Palacio è abbastanza innaturale e a velocità normale io voglio spezzare una lancia in favore di Giannocchero, detto che quella era un'azione che doveva essere fermata per fuorigioco, però siamo sulla seconda parte della nostra scomposizione, perché poi le proteste di Stramaccioni sono forti anche proprio sul momento del contatto, cioè a me sembra che Palacio comunque si lasci anche cadere e da un certo punto di vista giustifica la scelta di Giannocchero di ammonirlo per simulazione, perché l'errore ci può stare. Esatto, nella prosecuzione dell'azione l'immagine chiara televisiva è quella che si vede Giannocchero che sta seguendo da terra l'azione e si vede il piede di Palacio, il piede sinistro di Palacio che striscia sul terreno di gioco. Questo sicuramente non ha favorito la decisione del direttore di gara che lo ha ammonito per simulazione. Però permettimi di dire che in questa situazione non c'è nulla di concreto, non c'è nulla di vero rispetto a quello che sono le immagini televisive. Tutta una situazione sbagliata. Assolutamente. Prendiamo una telefonata da casa, 800 24 00 24, Alberto da Monza. Alberto, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Allora, io volevo dire, strano che una squadra come l'Inter, che vabbè, prende sempre gol su queste ripartenze e che è successo più di una volta, non riesca perlomeno a pareggiare o recuperare. Anzi, poi dopo un fallo ingenuo di Juan Jesus, dopo il centrocampo, è stata una disfatta. Quindi non vedo Stramaccioni perché si attacca a questo rigore presunto che poi, se andiamo a analizzare bene, c'era anche il fuorigioco di Palacio. Chissà perché la Sampdoria è riuscita a vincere comunque, nonostante tutti i disastri di Valeri. Perché in questo momento evidentemente c'è una difficoltà forte per l'Inter e io credo ci sia anche una difficoltà forte di Stramaccioni nel riuscire a leggere questo momento di crisi della squadra, che è un momento di crisi che prosegue da più di un mese e forse sarebbe stato il caso di lavorarci di più durante la sosta, anche se evidentemente non esiste un'equazione fra giorni di allenamento e risultati alla ripresa, e ha fatto bene a sottolinearlo l'amico a casa al 349-238-6666, perché ha perso anche la Juventus, che è stata la prima a radunarsi dopo Natale, 27 dicembre contro il 2 gennaio dell'Inter. Grazie Alberto. Graziano, per chiudere la moviola di Udinese-Inter, mi sembra sacrosanta l'espulsione di Juan Jesus e quindi non mi soffermerei, mentre si lamenta e molto Stramaccioni anche per la gestione dei cartellini gialli, perché dice nel primo tempo c'è un'entrata dura di Allan su Guarin, non viene sanzionata da un cartellino giallo e avrebbe potuto cambiare la partita, perché in realtà Allan viene poi ammonito e presto ancora nel secondo tempo. Permettimi di dire che è assolutamente necessario questo cartellino giallo per Allan. L'intervento del difensore dell'Udinese è a piedi uniti, è un intervento voluto, è un intervento cercato, è un intervento che non ha a che fare con quello che è un calcio corretto, assolutamente da punire con cartellino giallo, e in questo caso ha sbagliato Giannocchero. Poi dopo sarebbe successo l'allontanamento da parte di Allan dal terreno di gioco per un secondo cartellino giallo. Sì, si ragiona abbastanza sui se e sui ma e quindi il terreno è scivoloso, però certamente quel mancato cartellino giallo è un errore di Giannocchero, che abbiamo invece abbastanza assolto dal punto di vista di quello che può essere stato il condizionamento della gara, ma anche per una serie di circostanze fortunate su quello che è l'episodio di Domizzi e Palacio, e invece qui ha sbagliato. Milan-Siena, il raddoppio del Milan è su un calcio di rigore, il contatto tra Felipe e Pazzini. Graziano, è questo pallone calciato dalla sinistra in attacco del Milan che arriva in area di rigore, il contatto sicuramente, la spinta di Felipe c'è, Pazzini cerca di prendere posizione, la caduta dell'attaccante rossonero è sicuramente accentuata. Io però sostengo e continuo sempre a dire, non si può spingere in area di rigore. È brutto vedere queste situazioni. Sì, ci si mette sempre in una situazione pericolosa. Certo, è inevitabile. Ci sono gli arbitri che fischiano e gli arbitri che non fischiano. In campo internazionale lo fischiano sempre. In campo italiano abbiamo visto finalmente un arbitro come Calvarese, giovane, libero, che in questo momento è libero delle pressioni, fischiare un calcio di rigore. Sentiamo Allegri su Sky Sport. Allegri. Perché hanno fatto un ottimo secondo tempo, giocando anche un buon calcio, creando diverse occasioni, purtroppo abbiamo preso questo gol alla fine che si poteva evitare. Ilaria, penso Marco che Rosotti, sì. Al di là delle parole, perché non so se hai urlato, se stavolta li hai tranquillizzati, la cosa importante è hai messo dentro boia nel decimo minuto del secondo tempo, hai dato più ampiezza con quattro uomini nella fase offensiva che aprivano il campo, e lì è qualcosa è venuto maggiormente rispetto all'azione farraginosa del primo tempo. Ma in primo tempo abbiamo fatto più fatica nel sia nell'allargare il gioco e nella circolazione della palla, che era molto lenta. Al secondo tempo, cambiando anche il sistema di gioco, abbiamo sicuramente tratto dei vantaggi, però credo che sia merito dei giocatori che hanno giocato molto bene tecnicamente. Quando giochi bene tecnicamente è più facile anche vincere le partite. Milan, che ha vinto 4 partite delle ultime 5 a San Siro, l'unico KO quello con la Fiorentina. Milan, e lo abbiamo detto, che adesso può davvero ambire a tornare in corsa per la Champions League. Romano da Milano, 800 24 00 24. Romano, pronto? Allora, prego. Buonasera a tutti. Allora, caro Giovanni, scusami la confidenza. Io vorrei innanzitutto fare i complimenti a te, perché ho l'impressione che tu sia stato mio vicino di casa, se abitavi in zona Viale Monza. Sì, però andiamo oltre, però comunque complimenti, sì, per l'imparzialità, la vorrei sottolineare l'imparzialità. Grazie, dai, prego la domanda. Allora, la domanda è che Stramaccioni, secondo me, fa male a prendersela sempre con gli arbitri, a parte il derby che è stato regalato all'Inter. Ci sono state altre occasioni in cui l'Inter ha avuto dei favori dagli arbitri, e una sconfitta come quella contro l'Udinese 3-0 non è una sconfitta alla quale ci si può aggrappare sugli arbitri, e ce ne sono state altre di sconfitte così. Quindi è un allenatore, secondo me, sbagliato per l'Inter. Sì, è un allenatore certamente in difficoltà. Grazie Romano, lo stavamo dicendo, Graziano, con più o meno gli stessi punti nelle prime 8 giornate del campionato, Allegri era considerato un allenatore da esonerare. Probabilmente è arrivato il momento di fare una riflessione anche su Stramaccioni, ma non tanto perché Stramaccioni vada cacciato, perché l'Inter in questo momento è in crisi, ma perché evidentemente sta facendo fatica a trovare il filo in questa crisi dell'Inter. Non solamente il filo, ma direi che in questo momento è proprio la crisi dei risultati, la crisi di gioco dell'Inter. Abbiamo visto un Inter, e mi riferisco alla prestazione con la Juventus, dove c'era un attacco assolutamente eccezionale, sopportato da una squadra che aveva voglia di giocare e faceva bel gioco. Da quel momento è come se fosse arrivato qualcosa nell'Inter con la pancia piena. La vittoria della Juventus è come se avesse appagato i nerazzurri e c'è stata una parabola discendente. Bisogna spiegarsi il perché di questa parabola discendente. Certo, Graziano, io non ho segnato grossi episodi nelle altre partite, quindi con la moviola chiuderei qui, e invece ti farei sentire che cosa ha detto il presidente della Lazio, Lotito, ieri per la vicenda dei bu razzisti a Di Barbo, perché fatalmente se ne parla anche oggi. Noi ne parleremo a partire dalle 18:20 con il responsabile del Viminale, Roberto Massucci. Sentiamo Lotito ieri. Cioè, voglio dire, qui bisogna una volta per tutte chiarire qual è la portata di questi comportamenti, perché altrimenti così si rischia che uno, se uno sente un ululato o qualsiasi cosa, dice allora la società ha sbagliato l'atteggiamento razzista e quant'altro. Io penso che questo debba accadere soltanto quando la tifoseria, nella propria interesse, nella propria maggioranza, e assume atteggiamenti di questo tipo, altrimenti si rischia poi di dar voce ai singoli e di essere prigionieri, torna a ripetere, di far diventare ostaggio le società. Oh, questo l'ho detto ieri. Visto dal punto di vista di un arbitro, Graziano, è un momento difficile, perché dopo Busto Arsizio in tanti si aspettavano, in tanti chiedevano che le gare venissero sospese in caso di cori, burazzisti, di striscioni, però è evidente che questo in una partita ufficiale non può accadere. Qual è il vostro punto di vista? Allora, innanzitutto permettimi di dire che gli arbitri non possono sospendere nessun tipo di partita per questi cori razzisti rivolti a chi ha un colore della pelle diverso dal nostro. Non hanno il potere e non hanno le regole per sospenderla. Possono eventualmente menzionarla e nel rapporto di gara post-gara possono invitare attraverso autoparlante a smettere questi cori, ma il responsabile unico di una sospensione temporanea, di una sospensione definitiva, è colui che si occupa della sicurezza della partita, in questo caso questore, vicequestore, prefetto o la massima autorità istituzionale presente sul terreno di gioco. Sì, esiste una catena di decisione, esiste una catena di comando che non si può pensare, io credo, di cancellare nemmeno con una norma ad hoc, semplicemente perché probabilmente quella stessa catena di comando non lo accetterebbe. Ma ripeto, ne parleremo a partire dalle 18:20 con Roberto Massucci, che è il responsabile per l'osservatorio delle manifestazioni sportive del Viminale. Prima di salutarti, Graziano, Marco dalla provincia di Caserta, buonasera. Buonasera, prego. Niente, Marco, volevo parlare anch'io del fatto dei burazzisti. Cioè, praticamente è impensabile dover poter sospendere le partite perché, ecco, per per questi burazzisti o cose del genere, perché altrimenti ci si dovrebbe fermare anche per altri piccoli motivi, cioè quando si grida Terroni oppure quando si insulta l'arbitro. Ecco, Cesari è un testimone perfetto. Gli arbitri quante volte sono ostaggio delle tifoserie, di insulti che secondo me colpiscono molto di più che i giocatori, oppure quando si grida sui rinvii dei portieri e quei cori che conosciamo tutti, cioè allora non si dovrebbe giocare sì, più. Sì, però io credo che credo però Marco che pur nel disprezzo assoluto di quello che accade all'interno dei nostri stadi, ma non solo dei nostri perché accade anche nel resto d'Europa, seppur in forma diversa, seppure in alcune situazioni in forma minore, seppure nel disprezzo, poi si possa esistere un aggravante per quelli che sono insulti di contenuto razziale, e quindi si possa anche circoscrivere a questo, Graziano, il discorso. Il problema è che si è detto, si è parlato, si è scritto per due giorni di questa crociata per la sospensione delle partite. La verità è che si stava parlando del nulla, e quello che è successo ieri sera all'Olimpico io credo lo abbia dimostrato immediatamente. Sono perfettamente d'accordo, Giovanni, si è parlato assolutamente del nulla, si è fatto solamente del populismo o del ben pensantismo, se permetti il termine. Certamente le società, come diceva prima lo Tito, non devono essere né prigionieri né ostaggi di queste situazioni. E allora, visto che non si possono colpire le società, perché giustamente non si possono controllare di queste società, colpiamo il campionato, togliamo la cosa più bella della domenica o del weekend calcistico agli italiani, il campionato di calcio. E non è detto che questa sia la soluzione. Graziano, un abbraccio. Un abbraccio a voi, buon proseguimento. E buon lavoro anche a Graziano Cesari, moviolista di Mediaset Premium, tra pochissimo in onda su Mediaset Premium. Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, sta per arrivare anche Antonio Conte ai microfoni di Sky. Pubblicità. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure @CapuanoJo per intervenire e dialogare su Twitter. 349 238 6666 scrive un amico da casa: inizialmente l'Inter giocava male e vinceva e gli interisti lo davano la loro squadra, ora che meriterebbero di più e perdono danno contro dirigenza, tecnico e giocatori. E poi ancora Marco: una mano appoggiata può sbilanciare, guardate i rugbisti, per sbilanciarli bisogna placcarli, nel calcio evidentemente è più vantaggioso cadere che proseguire. Intanto torno a salutare Dario Ricci da San Siro. Buon pomeriggio Dario. Buon pomeriggio Giovanni. Dario, stiamo aspettando anche Antonio Conte che sta per parlare ai microfoni di Sky Sport. Intanto però apriamo la prima pagina di A Tempo di Sport. Una prima pagina che dice che è clamoroso a Torino, dove crolla la Juventus e riapre il campionato. Per Conte la terza sconfitta, la seconda in casa. Un anno fa aveva chiuso la stagione imbattuto. Alle spalle ne approfitta solo il Milan, in attesa del Napoli. Crollano Inter e Fiorentina. Milan che è a 5 punti dalla zona Champions. E poi domenica ancora di polemiche arbitrali. Valeri penalizza la Juventus, Stramaccioni sbotta contro Giannoccaro, noi sempre sfortunati con gli arbitri. Stramaccioni però ha fatto 8 punti nelle 8 partite dopo la vittoria a Torino. E infine clamoroso Blatter, attacca al Milan, abbandonare il campo non è la soluzione, si perde a tavolino. Dopo il caso Boateng, ieri la vergogna dell'Olimpico, il calcio italiano si interroga ancora sul razzismo. Alle 18.20 in diretta ad A Tempo di Sport, il responsabile del Viminale Roberto Massucci. Andiamo subito da Conte, Dario, ti chiedo un minuto di pazienza. Conte ai microfoni di Sky Sport, mi sembra sorridente malgrado la sconfitta, 2-1 in casa contro la Sampdoria. Abbiamo sentito la moviola, certamente la Juventus ha molto da recriminare per l'arbitraggio di Valeri, e allora adesso andiamo a sentire Antonio Conte. Una sconfitta, al di là di questo io chiedo come è possibile, che analisi fa lei per questo tipo di sconfitta, una squadra che per un'ora gioca in superiorità numerica, che è in vantaggio per 1-0 e che fa quel primo tempo, poi nel secondo tempo si è spenta completamente la luce. Beh, sicuramente non è stata una prestazione che ricorderemo volentieri, anzi eravamo in vantaggio di un gol, anche in maniera abbastanza giusta, eravamo 11 contro 10. Sicuramente è una partita che ci deve far riflettere, ci deve aiutare a crescere. Non dimentichiamo che noi sempre portiamo sempre avanti un processo di crescita in cui ci stanno tanti ragazzi che comunque giocano e cercano di arrivare alla vittoria, quindi è un processo di crescita, la prendiamo da questo punto di vista. Dispiace perché non è sicuramente, non dà fastidio perdere questo tipo di partite così per dei contropiedi. Niente, bisogna analizzare in maniera molto molto molto seria quello che abbiamo fatto bene e quello che non abbiamo fatto meno bene, sapendo che avremo sicuramente un mese e mezzo, due mesi molto delicati, perché sia per via degli infortuni sia per via anche di alcuni giocatori che comunque non stanno in grande condizione per via di acciacchi. Sì, molto, quindi molto deluso Conte. Dario Ricci, San Siro, ho l'impressione che invece il prossimo mese e mezzo del Milan sia qualcosa, ne parlavamo anche prima, che difficilmente i rossoneri potevano sperare anche solo un mese fa. Sì, direi di sì Giovanni, è un mese e mezzo importante quello che aspetta il Milan, che ora ritorna in vista del terzo posto, 3 punti sofferti con il Siena, in una partita sbloccata dall'ingresso di Bojan al 10° del secondo tempo della ripresa, proprio Bojan ha segnato al 56° su cross, su assist di Boateng, salutato dalla curva rossonera da un caloroso applauso nell'ingresso del riscaldamento in cui il Milan ha indossato una maglia contro il razzismo dopo i fattacci di Busto Arsizio, e poi il raddoppio è arrivato su un dubbio rigore concesso da Calvarese per un contatto tra Felipe e Pazzini, lo stesso Pazzini ha trasformato all'80°. Qualche minuto brivido alla fine dopo la rete di Paolucci, il solito gol su colpo di testa che la difesa del Milan ormai ci ha abituato a prendere in questo campionato e non solo. Commentiamo la sfida col nostro ospite Franco Ordine, inviato del giornale. Franco, un successo che apre prospettive inattese per questo Milan che torna a vedere un terzo posto, no? Sì, però insomma è un vedere che non produce grandi effetti, nel senso grandi successioni più che grandi effetti, perché la qualità prodotta, del calcio prodotto, è veramente molto deludente, ma insomma non ci sono molti motivi per far festa, ecco, credo, al di là del risultato e della posizione in classifica. Non a caso Gagliani nel dopogara ha ringraziato Bojan definendolo come sesto uomo ideale, ma ha anche ringraziato Abbiati che all'11° della ripresa ha fatto una parata decisiva su Rosina, da lì poi il successo. Direi forse la nota positiva è proprio questo ingresso di Bojan che ha portato quantomeno un po' di velocità e anche un po' di tecnica. Sì, ma infatti è quello che succede insomma almeno costantemente, quindi questo mi fa pensare che non ci sia solo una questione di fisica, c'è anche una questione di testa, perché è l'ennesima volta in cui il Milan comincia molto male la partita, per un tempo è inguardabile ed è irriconoscibile, poi invece cambia marcia nel secondo tempo. Dario, scusa, perché c'è Conte che sta analizzando gli episodi da Moviola di Torino, campo che poi andiamo ad analizzare, poi io sono l'allenatore e faccio delle considerazioni ben più profonde su quello che abbiamo fatto, però è inevitabile che comunque sì, è un episodio, questo è rigore, non è che ci raccontiamo chissà che, però vediamo anche l'episodio su Bonucci. Non l'ha visto l'arbitro, Conte. Non l'ha visto il quarto uomo. Io devo accelerare, ma mi piace questo tipo di modo di ragionare. Quello su Bonucci rivediamo anche con Massimo Mauro. Massimo. No, sì, era calcio di rigore anche quello su Bonucci, Conte, che però mi sembra non si attacchi troppo agli episodi pure condizionanti, perché la Juventus nel primo tempo è stata certamente penalizzata dall'arbitraggio di Valeri. Dario, vorrei chiedere a Franco Ordine che cosa però cambia in vista del mercato di gennaio, perché probabilmente cambiano anche alcune prospettive, forse anche alcune scelte, con il Milan che può davvero giocare un girone di ritorno pensando di poter entrare in Europa dalla porta principale. Ecco Franco, parlando ancora di mercato, escludi l'arrivo del top player in attacco tipo Drogba o Balotelli, a questo punto chi potrebbe arrivare invece? No, non arriva l'attaccante, mi pare che è stato detto in maniera molto chiara da Adriano Galliani e anche dallo stesso allenatore Allegri, per cui credo che bisogna concentrarsi su un difensore o un centrocampista a seconda di quale reparto sarà sottigliato dalle cessioni. Quali nomi potrebbero essere interessanti? Non te lo so dire, a questo punto credo che non si vedrà, dipende dal ruolo che dove avviene il taglio, ecco, e lì bisogna capire. Un'ultima battuta proprio sul dopo Busto Arsizio, oggi c'è stato l'applauso della curva, la maglietta antirazzismo, però servono chiaramente, come ha indicato lo stesso Allegri, soluzioni strutturali. Tu che sei uomo di calcio, oltre che... Qui in questi casi non bisogna dare alle società, alle squadre, ai singoli giocatori il compito, la responsabilità di fare questi interventi, è il calcio che deve farlo, che si deve difendere da solo, sì, è l'arbitro che deve intervenire, invece insomma a Bustassic ha colmato una lacuna, ha colmato un vuoto clamoroso. Grazie a Franco Ordine, e del resto insomma ormai i giudici di gara, Giovanni, lo sottolineiamo tutte le domeniche, sono sempre di più intorno al perimetro di gioco. Ebbene, anche che questa moltiplicazione per molti aspetti positiva porti anche ad un migliore coordinamento dell'azione e anche una maggiore suddivisione delle responsabilità che renda più immediate decisioni certo non facili. Sì, anche se credo che la decisione di sospendere una partita non potrà mai toccare al direttore di gara. Grazie Dario Ricci, ma ricordo 18:20, Roberto Massucci, responsabile dell'osservatorio per le manifestazioni sportive del Viminale. Avremo modo di chiarire tutto questo e chiedere anche un giudizio, ad esempio, su quello che è successo ieri sera all'Olimpico, i burazzisti con i Barbo del Cagliari. Sentiamo ancora Conte, Sky Sport. Il fatto è sempre stato frutto di grande volontà, di grande voglia, di grande ferocia, di grande determinazione, anche se a volte altri vogliono far apparire qualcosa più grande di quello che è. Noi sappiamo le nostre vittorie come le abbiamo costruite, tramite il lavoro, tramite l'abnegazione da parte di tutti. È inevitabile che dico anche che sarà un mese e mezzo, due mesi belli tosti per noi, perché è una cosa far fronte a un paio di giocatori, quando inizia ad essere 4-5 inizia comunque tra virgolette a patirne anche, cioè, come, qualcosa, sì, e tra scusami, i giocatori scusami, che hanno delle difficoltà fisiche, da questo pomeriggio c'è Marchisio, per lui sospetta distorsione al ginocchio destro, domani gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio. Umberto da Como, 800 24 00 24, buonasera Umberto. Buonasera, prego. Oggi ho visto l'Inter e mi è sembrata ancora poca cosa, come le ultime sei partite. Secondo me forse l'allenatore dovrebbe tornare al ruolo che gli competeva prima. E immagino purtroppo le risate che si farà Schneider vedendo questi risultati e questa squadra. Sì, io credo che non si debba nemmeno essere troppo duri con Stramaccioni, non era un fenomeno prima, non è certamente un allenatore da buttare oggi. Io dico che però una riflessione va fatta, perché ad esempio un allenatore di peso, non cito Mourinho, ma è bastato l'esempio di Delio Rossi, che è arrivato alla Sampdoria e di fatto ha preteso che venisse reintegrato Palumbo che non giocava da un anno. Ebbene, un allenatore di peso, io credo, certamente non avrebbe avallato da parte della società una gestione simile dell'avvertenza di Schneider, che ha tolto fino a prova contraria il giocatore tecnicamente più importante di questa squadra nel momento in cui la vittoria a Torino contro la Juventus aveva aperto nuove prospettive al campionato dell'Inter. Ecco, io credo che questa ad esempio è una riflessione da fare se si vuole aiutare Stramaccioni e l'Inter a trovare il filo di questa crisi. Roberto da Vicenza, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Senta, niente, guardavo oggi la partita, di solito non le guardo quasi mai perché ho visto una Juventus stanca, tanto di cappello alla Sampdoria, però una cosa, secondo me, è pesato moltissimo il secondo rigore che non è stato dato e l'espulsione di Palumbo che c'era, secondo lei? Secondo me ha certamente condizionato la partita, non c'è dubbio, e mi sembra che questi episodi siano stati ampiamente analizzati da noi nella moviola di Graziano Cesari, però mi piace di più l'approccio di Conte, cioè detto che la partita è stata condizionata nel primo tempo dagli errori del direttore di gara e che al 45esimo era una partita finita senza errori, secondo me è più interessante cercare di capire che cosa è successo nel secondo tempo alla Juventus, se è un un problema di stanchezza, di approccio a una gara che probabilmente all'intervallo molti giocatori della Juventus hanno ritenuto chiusa e quindi nel secondo tempo hanno affrontato con meno fame. Se c'è, come ha detto Conte, un allarme, infortuni, e in qualche modo questo nel mese di gennaio possa dover spingere anche la società a intervenire sul mercato, ecco, io credo che la Juventus debba interrogarsi molto su una sconfitta che potrebbe anche non far male, perché dietro, lo abbiamo visto, non corrono. In fondo la Lazio è a 5 punti e difficilmente può essere considerata un anti-Juventus credibile in vista dello scudetto, però certamente gli episodi arbitrali hanno condizionato questa partita. Noi ci fermiamo, c'è il traffico, poi c'è Jovetic, Simone da Verona. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i messaggi, @CapuanoJo per chiacchierare su Twitter. Sentiamo una battuta di Jovetic a Sky Sport. Fiorentina battuta in casa dal Pescara 2-0. Di tutto, però l'approccio della partita non l'abbiamo sbagliato, abbiamo iniziato subito a giocare, a creare, a fare tiri in porta, però purtroppo oggi lui ha avuto il suo giorno e gli faccio i complimenti perché ha fatto veramente bene. E poi anche Pescara difensivamente hanno fatto alla grande, perché c'erano dappertutto, abbiamo tirato tante volte, loro erano sempre in blocco. Purtroppo capitano i giorni quando giochi bene e non vinci, purtroppo a noi è capitato oggi. Bisogna dimenticare il prima possibile questa sconfitta e girarsi alla trasferta di Udine, che sarà un'altra gara durissima. Sì, lui a cui si riferisce Jovetic è Perin, portiere del Pescara, che ha vissuto un primo tempo assolutamente straordinario. Simone da Verona, buonasera. Buonasera, volevo parlare della preparazione sportiva delle squadre. Dica. A me fa, tra virgolette, sorridere il fatto che quando inizia il campionato a settembre iniziano subito le coppe, ci si lamenti del fatto che il campionato italiano inizi in ritardo e che le squadre nostre italiane siano meno preparate fisicamente. Dopodiché adesso c'è la pausa invernale, ci sono alcune squadre che hanno iniziato prima come la Juventus, qualcun altro ha iniziato un po' dopo, è vero, come l'Inter, e stiamo ancora qui a sollevare un po' di polemica. Secondo me penso che sia stato un normale calo fisiologico, cioè non ritengo che iniziare 2 o 3 giorni prima oppure 2 o 3 giorni dopo sia così evidente. Probabilmente la Juventus sicuramente sta pagando il fatto anche quest'anno che ha più partite in Coppa Campioni rispetto a quelle che aveva l'anno scorso. L'Inter chiaramente, ormai l'abbiamo capito, sta pagando il fatto che è un po' sazia dopo la vittoria con la stessa Juventus in casa. Quindi secondo me la polemica sulla preparazione è un po' fuorviante, perché... Sì, Simone, però io non parlerei di polemica, però credo che un'analisi vada fatta, perché io trovo ad esempio che sia strano che un giocatore rientri dopo 12 giorni di vacanze e dopo un allenamento e mezzo scopra di avere un affaticamento muscolare. Queste sono probabilmente situazioni che avrebbero potuto essere affrontate in maniera migliore con qualche giorno di lavoro in più, probabilmente consentendo all'Inter di portarsi Milito almeno in panchina, non dico farlo giocare dal primo minuto. E gli errori sotto porta di oggi, secondo me, dicono molto di quanto abbia perso l'Inter senza un giocatore come Milito. Grazie comunque, Simone. Francesco da Fermo, prego. Sì, buongiorno, anzi buonasera. Prego. Dato l'orario. No, io il mio intervento è soprattutto perché sinceramente i senatori dell'Inter adesso incominciano a pochino ad avere delle difficoltà, soprattutto Samuel, penso che siano sue le colpe delle ultime sconfitte dell'Inter, perché è proprio lì al centro della difesa che l'Inter poi è più penalizzata, nel senso che giocare a 3 dietro è una difficoltà che secondo me oramai è viva, è reale, e proprio la società stessa secondo me non vuole approfittarne. Però mi perdoni Francesco, vado a memoria, ricordo il gol preso dall'Inter all'Olimpico da Klose, l'uomo su Klose era Ranocchia, la rete dell'1-0 oggi di Di Natale, che è molto simile, non mi sembra fosse Samuel in copertura ma Juan Jesus, poi espulso Juan Jesus l'Inter è crollata, io non ne farei un discorso di singoli a quel punto, Francesco. Ma no, è la società secondo me che fa gli errori più grossi, il problema Snyder è un problema che secondo me non ci sta, perché se l'Inter vuole essere, diciamo, in vetta e vuole in Europa avere la Champions deve anche reintegrare Sneijder, perché sennò altrimenti non sarebbe una squadra top come lo è stata in passato. Però il fatto che ci sia un uomo come Sneijder, come Samuel al centro, io mi focalizzo su Samuel perché magari oggi no, però nelle partite in cui noi abbiamo subito lì al centro, erano partite anche con le piccole, dove in realtà venendo anche quei punti oggi tutta sta differenza non ci sarebbe stata, perché poi alla fine gli episodi ci hanno condannato in queste 3 partite, 4 ultime, nonostante ciò noi potevamo essere lì, sì, anche se per cortesia non credo ci sia da parlare soprattutto oggi di episodi arbitrali. Grazie a Francesco, comunque saluto il direttore di Tutto Sport, Vittorio Reggia, buon pomeriggio direttore, anzi buonasera. Buon pomeriggio a voi. Rapidamente con te apriamo la prima pagina di A Tempo di Sport. Una prima pagina che dice: clamorosa Torino, crolla la Juventus, riapre il campionato, per Conte la terza sconfitta, la seconda in casa, un anno fa aveva chiuso la stagione imbattuto e dopo la gara dice l'allenatore della Juventus: dovremo riflettere, ci aspettano 2 mesi durissimi. Domenica ancora di polemiche arbitrali perché Valeri ha penalizzato la Juventus, Stramaccioni infuriato contro Giannoccaro, ma per lui 8 punti nelle 8 partite dopo la gara di Torino, e a questo punto si apre anche una riflessione sulla sua panchina. E infine torniamo a parlare di razzismo, Blatter attacca al Milan, abbandonare il campo non è la soluzione, si perde a tavolino. Dopo il caso Boateng, ieri i fischi dell'Olimpico a Ibarbo, dalle 18:20 ne parliamo con Roberto Massucci, responsabile del Viminale. Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport, al di là degli episodi cosa succede alla Juventus? Io credo oggettivamente che la Juventus abbia perso per un atto di presunzione, la presunzione che l'aveva portata dopo 45 minuti a essere in vantaggio in maniera abbastanza netta, con altre 2 occasioni divorate da Giovinco, un uomo in più, e sono entrati in campo scarichi nella ripresa e giustamente sono stati puniti. Io credo che la Juventus oggi forse per la prima volta abbia attuato il turnover vero, e lo specchio, la cartina torna solo, e lo specchio della verità è quello che probabilmente, nonostante sia la squadra più forte del campionato, non può permettersi di fare troppo turnover, perché sennò anche una Samp in 10 rischia di metterla in difficoltà. Sì, era successo, ricordo, inizio stagione, nel primo tempo a Marassi contro il Genoa, e poi nel secondo tempo Carrera era stato costretto a inserire Asamoah, Vucinic per cambiare volto alla partita. Era successo credo anche a Siena, dove al di là della vittoria la Juventus aveva molto sofferto. Hai sentito Conte dopo la partita fare riferimento alla difficoltà di affrontare i prossimi 2 mesi con tanti giocatori che cominciano a mancare? Secondo te è anche un messaggio abbastanza esplicito, visto che siamo in tempo di mercato? Guarda, io credo che l'atto di presunzione della Juventus sul campo oggi non debba riflettersi in un atto di presunzione della dirigenza. Io credo che, ma con tutto il rispetto e senza non voler togliere niente a nessuno, alla Juventus non possono avere domicilio i Peluso, i Padoin, i Giaccherini, tutti giocatori che comunque non possono far fare alla Juventus un salto di qualità, e quando vengono chiamati in causa, perché ogni tanto vengono chiamati in causa, hanno un rendimento troppo inferiore a quello che sono i titolari. E io credo che questa debba essere una lezione per il campionato, anche se il vantaggio è ancora cospicuo, e che se la prima parte della stagione ha dimostrato che la Juventus, se non fa la stupida, lo rivince lo scudetto, ma soprattutto in chiave Champions League. È chiaro che una stagione come quella passata, dove praticamente ci sono stati 0 infortuni, non si verifica più. Non sì, a caso, è irripetibile, non a caso ci sono, c'è Chiellini che ha un infortunio grave di 3 mesi, Marchisio ha un infortunio abbastanza grave, lo stanno verificando, comunque si parla del tendine del ginocchio esterno, quindi non una roba di poco conto. Insomma, Vucini ha degli acciacchi. Io credo che se la Juventus vuole andare in fondo in Champions League deve intervenire sul mercato in una certa maniera. Poi è chiaro che ci sono i bilanci da rispettare, c'è il fair play finanziario, c'è comunque una situazione globale, generale in Italia che non consente di fare follie nel calcio, e mi pare che il comportamento di Inter e Milan, che negli anni scorsi sono sempre stati un po' leggeri sul mercato, stia a testimoniare insomma di una presa di coscienza di una realtà di un certo tipo che coinvolge il nostro paese e non solo il nostro paese. Però restando ai fatti del calcio e di calcio, io credo che sia innegabile che la Juventus debba in certi ruoli alzare l'asticella. Se non alza l'asticella, sicuramente potrà farcela rivincere lo scudetto, ma sicuramente non potrà fare tanta strada in Europa. Sì, e certamente l'infortunio di Marchisio apre da questo punto di vista probabilmente un capitolo nuovo che Marotta e Paratici non avevano messo in conto di dover aprire. Sì, io non voglio ragionare insomma, se non ho dei dati di fatto concreti, però le prime risultanze che mi hanno detto i miei colleghi dallo spogliatoio, non è un infortunio di poco conto quello di Marchisio. Marchisio è un po' l'anima, è stato un po' l'anima l'anno scorso e quest'anno della Juventus. Io credo che pensare di andare a giocare in Champions League con Giaccherini e non con Marchisio sia abbastanza inquietante, ma non per nulla togliere a Giaccherini, per carità. Però io non credo che se si infortuna Chiellini e viene venduto Lussio, anche se Lussio ha giocato pochissimo nella Juventus, la soluzione ideale sia quella di Peluso, che ha 28 anni, ha sempre giocato nell'Atalanta e probabilmente se fosse stato un fenomeno non avrebbe dovuto aspettare i 28 anni per finire in una grande squadra. Insomma, è una serie di ragionamenti che mi porta a pensare che forse, senza nulla togliere alla bravura dei dirigenti, di Agnelli, insomma, di quello che è il cuore della Juventus, una riflessione vada fatta, è vero, ha ragione Conte, la Juventus non è una squadra di marziani, la Juventus è una squadra che può perdere, non a caso quest'anno ha perso 3 partite, però probabilmente è anche una squadra molto perfettibile facendo un certo tipo di operazioni. Mi domando, ad esempio, che senso ha continuare a tenere Matri e Quagliarella, che mi pare che siano ormai 2 giocatori fuori. Sì, fuori dal progetto di Conte, dal progetto di Conte, non c'è dubbio. Grazie a Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Grazie a voi. A presto, noi ci fermiamo, c'è il GR, poi quando torniamo Rolando Maran, allenatore del Catania, e poi parliamo anche di razzismo. GR. A tempo di sport. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, e poi su Twitter l'account è @CapuanoGio. Parleremo molto in quest'ultima ora di A Tempo di Sport di quello che è successo oggi sui campi, perché parleremo molto della sconfitta della Juventus, ma anche dello sfogo di stramaccioni, delle proteste dell'Inter per gli errori, oggi presunti errori arbitrali, che stanno condizionando il campionato dei nerazzurri. Stramaccioni che ha detto: siamo sfortunati con gli arbitri in queste settimane, e poi ha attaccato Giannoccaro per il mancato rigore su Palacio, rigore che però non c'era e Palacio tra l'altro era in fuorigioco. Voglio sapere che cosa ne pensate, e voglio sapere anche che cosa ne pensate di quello che è successo in questi giorni, tutto il dibattito intorno al tema razzismo, perché ne parleremo a partire dalle 18:20 con Roberto Massucci, numero 1 del Viminale, responsabile dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive, perché molto si è detto e si è scritto in questi giorni anche sul potere degli arbitri e delle società di mettere fine a partite condizionate dai burazzisti. E poi invece la realtà ieri all'Olimpico ci ha spiegato chiaramente che questo non è possibile, e oggi lo dice anche il presidente della FIFA Blatter, che ha attaccato il Milan e ha detto: abbandonare il campo non è la soluzione, aspetto dalla Federcalcio una relazione scritta per capire che cosa è successo a Busto Arsizio. E poi: chi abbandona il campo ha la partita persa a tavolino. Con il razzismo ci vuole tolleranza zero, ma andarsene dal campo non è la soluzione. Io però voglio salutare intanto l'allenatore del Catania, Rolando Maran. Buonasera Maran. Buonasera, buonasera a voi. È la soluzione andarsene dal campo o no? È uno dei temi di giornata. Sì, quando stavamo riportando le parole del presidente della FIFA, che oggi, parlando di quello che è successo in Italia in questi giorni, cori razzisti, ha detto: abbandonare il campo non è la soluzione. No, No, non è una soluzione, ma un segnale sicuramente. Segnale che il giocatore non si era voluto dare, un segnale che deve essere come da monito. No? Sicuramente non è la soluzione, ma è comunque un segnale che qualcosa bisogna fare. Sì, c'è intanto qualche problema di comunicazione, vediamo se riusciamo a ripristinare in maniera corretta la comunicazione con Rolando Marani. Intanto c'è Buffon che sta parlando a Sky Sport, sentiamo Buffon. Mi disturba un pochino di più. Ilaria. No, immaginiamo, allora prima di tornare da lei Buffon, le facciamo vedere proprio per infliggere punizioni. Sì, le parate di Perin, perché a Sky c'è da una parte Buffon che oggi ha vissuto una giornata certamente difficile, tutti e due i gol, soprattutto il primo, sono gol per i quali c'è una responsabilità in ogni caso del portiere della Juventus. Al contrario, Perin, numero uno del Pescara, che è stato assoluto protagonista a Firenze con le sue parate nel primo tempo, ha tenuto in partita il Pescara, che poi nella ripresa è riuscito nell'impresa di vincere 2-0 contro la Fiorentina. Abbiamo ripristinato il collegamento con Rolando Maran. Ho l'impressione, Maran, e questo è un giudizio personale, che il suo Catania insieme al Parma sia un po' la rivelazione di questo campionato. Lo dice la classifica, lo dice una continuità di risultati, lo dice anche secondo me la qualità del gioco espresso, o no? Ma questo mi fa piacere, perché comunque il mettersi in luce, oltre che per i risultati anche per la qualità, è sicuramente una cosa che, un complimento che ci prendiamo volentieri. Poi è ovvio che devono essere gli altri a dire questo. Noi dal punto di vista delle prestazioni ne abbiamo sicuramente sbagliate poche, purtroppo magari abbiamo raccolto un po' meno di quanto avremmo meritato, perché qualcosa abbiamo lasciato per strada, e questo è il rammarico grande. Sì, sbollito un po' il nervosismo. Quella di ieri era una partita che credo il Catania avrebbe potuto tranquillamente vincere anche in 10 contro 11. Ma più che è ovvio che è rimasta un po' di rabbia, perché probabilmente giocarsela in parità numerica probabilmente ci avrebbe dato più possibilità di vittoria. Però usciamo con la consapevolezza di aver fatto una buona gara e di averci provato seppur in inferiorità numerica. Che cosa succede a Lodi? Che cosa è successo a Lodi? No, Lodi purtroppo è stato tradito da un gesto istintivo che non è neanche nel suo repertorio, per cui è un giocatore correttissimo e purtroppo è incappato in un gesto che veramente anche da lui si fa fatica a riconoscere, un gesto del genere, insomma. Ho letto che lei ieri a caldo ha negato l'esistenza di un legame con le voci di mercato che vogliono l'Inter interessata al giocatore. No, io li vedo, ho risposto semplicemente che vedo come si allenano, vedo cosa mettono in campo quotidianamente, per cui vedo che c'è grande applicazione e partecipazione in tutto. Questo mi fa pensare che non sia così, insomma. Il suo Catania può fare a meno di Lodi o di qualche altro big, perché sono tanti i giocatori ricercati in questa finestra di mercato. Questo è anche un complimento al lavoro vostro e al lavoro della società. No, Catania ha dei buonissimi giocatori, è un organico che sta facendo rispettare tutta Italia, per cui Lodi fa parte. È un giocatore di questi che riesce a dare ha sempre dato un grandissimo contributo e continuerà a darlo per il Catania. È difficile però gestire il mese di gennaio, soprattutto per le squadre più piccole, squadre che magari a fronte di offerte importanti poi lasciano anche partire giocatori importanti. Io credo che per voi sia una doppia fatica. Ma noi ovviamente siamo quelli che siamo toccati più da vicino, noi allenatori, e questo ormai abbiamo parlato proprio a convivere con questa finestra di mercato, e cerchiamo di guardare solo al campo, almeno per quanto mi riguarda guardo solo al campo, isolandomi proprio da quello che è, da quelle che sono le voci, da quelle che sono tutte le chiacchiere che sta attorno a questo mese, insomma. Io trovo particolarmente interessante l'esperimento della Serie B, che ha giocato nella sosta natalizia e adesso si è fermata fino al 25 gennaio. Una delle ragioni è stato spiegato è anche per evitare un campionato da un certo punto di vista falsato in questo mese di mercato. Potrebbe essere un modello, un esperimento interessante anche per la Serie A? Ma il fatto di fermarsi, soprattutto negli ultimi giorni della finestra di mercato, questo credo che sia sicuramente un aspetto che vada preso in considerazione. Ecco, magari anche per la Serie B, se il mercato finisse il 25 forse sarebbe ancora meglio, però nel senso che comunque soprattutto l'ultima settimana dove dove le trattative si fanno un pochino più frequenti, magari non avere le partite potrebbe essere un aiuto. Ricordo negli anni scorsi mi sono trovato veramente il pomeriggio a dover utilizzare dei giocatori, la sera a dover utilizzare dei giocatori, il pomeriggio non erano più nel mio organico, per cui sarebbero situazioni che sarebbe meglio togliere. Sì, è una riflessione credo che si possa fare. Per chiudere, Maran, leggo la classifica, 26 punti, la zona che porta l'Europa League è distante credo 5-6 punti, non di più. Il Catania nel girone di ritorno ci fa un pensierino? Ma noi dobbiamo guardare sempre il nostro obiettivo, che è quello di arrivare alla salvezza più presto possibile. Poi, ovviamente, se continuiamo a mettere in campo prestazioni di questo tipo e magari raccogliamo per quanto meritiamo, lo dirà il campo, lo diranno i risultati. Adesso noi dobbiamo essere concentrati su quello che invece è il nostro obiettivo primario, che è quello di salvezza in fretta. Anche perché avete visto anche oggi ci sono tantissimi risultati, tra virgolette, a sorpresa, che accorciano la classifica, per cui sappiamo che dobbiamo correre ancora. Sì, mi sembra ci sia una grande vitalità anche in coda, e oggi Pescara e Sampdoria soprattutto, ma anche il Genoa, che ha ritrovato la vittoria col Bologna, lo hanno dimostrato. Grazie a Rolando Maran. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie a Rolando Maran, allenatore del Catania. Sentiamo Buffon a Sky ancora, sta analizzando i gol presi. È importante, perché la palla che va dal basso verso l'alto per un portiere è realmente difficile da impattare e da leggere, più che altro, perché in quel momento lì, chiaramente, per rimanere in piedi, cerco sempre di rimanere ben coricato, cioè coricato, di rimanere con le ginocchia piegate, e nel momento in cui la palla parte dal basso verso l'alto e mi passa troppo lontana, ecco, e faccio fatica ad arrivarci. Però è anche vero che, insomma, se la parassi non è che mi sorprenderei. Sì, autocritica spietata di Buffon, sta parlando del secondo gol preso da Icardi. Il primo è certamente un suo errore, perché non riesce a respingere, non riesce a trattenere il diagonale di Icardi e la palla finisce in rete. Il secondo è certamente un gran gol di Icardi, un pallone che però entra sul primo palo di Buffon, che ha spiegato, io credo in maniera corretta. Poi, se non avete ancora visto le immagini, guardate le immagini di questo gol di Icardi, ha spiegato in maniera abbastanza corretta perché per un portiere quel tipo di conclusione sia difficile, e perché però allo stesso tempo un grande portiere come Buffon ammette che prendere una rete sul primo palo contiene sempre una percentuale di errore. Questo è Buffon oggi nel dopopartita di Juventus-Sampdoria. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta. Ci sono Pietro dalla provincia di Latina, Luca da Cremona, ma noi ci fermiamo prima perché c'è un minuto di traffico. A tempo di sport. 800 24 00 24 per dire la vostra in diretta su Juventus, Inter, arbitri, razzismo. Pietro dalla provincia di Latino, buonasera. Pietro? Proviamo a recuperare la telefonata. E allora Luca da Cremona, buonasera Luca. Buonasera. Prego. Sì, la mia è una constatazione solo. Io sono interista, per cui dico che guardando la cornice, non solo il quadro, con il ridimensionamento che c'è stato quest'anno, guardando la classifica e facendo il bilancio al 31-12, al di là della partita di oggi che lascia un po' l'amaro in bocca, l'Inter sta facendo un buon campionato, sicuramente non è una squadra di vertice. Punto 2, i campioni che ha venduto l'Inter cosa stanno facendo? Adesso mi piacerebbe saperlo. Smembrata la squadra, capire poi cosa si è perso di questa amalgama, e quella nuova che sta arrivando è tutta da fare, insomma. Beh, i campioni che hanno lasciato l'Inter non stanno facendo benissimo. Maicon fa più la riserva che il titolare, ad esempio, a Manchester. Eto'o si è di fatto prepensionato in Daghestan. Mi viene in mente Giulio Cesar sta facendo fatica al Queen's Park Rangers, e comunque non è una ribalta quella probabilmente adatta e all'altezza per un portiere come Giulio Cesar, che era un portiere certamente in fase discendente nella sua carriera, ma che può dare e avrebbe potuto dare ancora molto. Però la difficoltà è nel fatto che l'Inter ha perso la sua anima e non ha ancora ricostruito, Luca, io credo, quella che sarà l'anima del futuro. È un lavoro lungo, bisogna avere pazienza. Secondo me, Luca, bisogna evitare di farsi del male da soli. E penso e torno e lo ripeto, ad esempio, alla gestione dell'avvertenza Snyder. Grazie Luca. Noi però adesso cambiamo argomento, perché torniamo a parlare della questione razzismo, e io lo faccio salutando Roberto Massucci, che è il portavoce dell'Osservatorio delle manifestazioni sportive del Viminale. Buonasera Massucci. Buonasera a voi. Buonasera. Torniamo a parlarne, perché io credo che quanto accaduto in queste giornate meriti una riflessione al di là di quella fatta sull'onda anche dell'emozione per quello che è accaduto giovedì a Busto Arsizio. Oggi sul Corriere della Sera un'interessantissima intervista proprio con Roberto Massucci, che spiega come in realtà, secondo me, si sia parlato abbastanza del nulla in queste giornate, quando si è invocata la sospensione delle partite in caso di cori razzisti, decisa dalle società, dai giocatori o anche dal direttore di gara. Condivide Massucci? Più che condivido, dico che ci sono le norme che stabiliscono le procedure, le norme sono assolutamente chiare e prescrivono un percorso che può portare anche alla sospensione della partita, che però è una decisione che va valutata con grande attenzione, perché chiama in causa interessi estremamente importanti come l'incolumità delle persone che sono all'interno degli stadi. E quindi certamente non possono essere né giocatori né società a prendere questo tipo di decisione? Beh, questo le norme non lo dicono. Le norme prescrivono che la decisione finale spetti al responsabile dell'ordine pubblico, perché poi si tratta di evacuare in una situazione di emergenza uno stadio dove ci sono diverse migliaia di persone, quindi la decisione finale va partecipata e condivisa con dirigente del servizio dell'ordine pubblico, e questo dicono le norme. Proviamo a ricostruire questa catena di comando, questa catena di decisione all'interno di uno stadio, quando, ed è stato ad esempio anche il caso di ieri all'Olimpico, si verificano episodi spiacevoli come possono essere delle manifestazioni di odio razziale. Qual è la catena di comando e anche la catena degli eventi che devono accadere e che, come ricordava, possono anche portare alla sospensione, ma non necessariamente alla sospensione di una partita? La catena degli eventi prevede innanzitutto che siano adottate misure che cercano di normalizzare la situazione all'interno dello stadio, e quindi l'arbitro può fermare la gara temporaneamente e consentire i cosiddetti annunci antirazzisti, e qualora il comportamento dovesse persistere, dovesse continuare, allora si passa alla fase successiva, che è la valutazione, ripeto, non una decisione diciamo così perentoria, ma una valutazione circa la possibilità di sospendere o meno la gara. Quindi è inaccettabile pensare che possa accadere in una gara ufficiale, in una gara magari in uno stadio con 50-60 mila persone, quello che è accaduto giovedì a Busto Arsizio. Beh, quello che è accaduto giovedì a Busto Arsizio, se dovesse verificarsi in una gara ufficiale con diverse migliaia di persone, creerebbe grandi problemi dal punto di vista della, ripeto, della gestione dell'incolumità delle persone. Si tratta di attivare delle procedure di emergenza che attengono all'evacuazione di luoghi dove c'è un grande affollamento di pubblico, e quando si gestiscono le masse, come la storia anche di altri paesi ci insegna, ci vuole grande competenza, delicatezza, professionalità e capacità di gestione. Io vorrei sapere con che giudizio avete osservato il dibattito che si è aperto in questi giorni nel mondo del calcio, e dove invece in molti, secondo me anche un po' affrettatamente, hanno provato ad accreditare l'opinione contraria, e cioè che anche un gesto simbolico potrebbe essere ripetuto. Noi abbiamo osservato con grande rispetto le opinioni di tutti, ripeto, le norme prescrivono dei comportamenti diversi, e in questo momento quelle sono le procedure che vanno osservate. Poi se il dibattito porta ad una esigenza di cambiare le regole, se ne può anche parlare, però al momento le regole non prescrivono qualcosa di diverso da quello che ho detto. Io immagino che anche future regole non potranno prescindere poi dal ruolo di chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico, al di là di quella che può essere la gerarchia sportiva dell'evento. Beh, penso che l'incolumità di migliaia di persone va tante poste a qualsiasi altro interesse in situazioni come queste. Va anche considerato che il comportamento, tra virgolette, razzista è un fatto penalmente rilevante e, come tutte le norme penali, chiamano in causa la responsabilità penale di chi commette questi fatti, tant'è vero che per i fatti di cui stiamo parlando sono stati già identificati e denunciati all'autorità giudiziaria 6 tifosi. Esiste un allarme razzismo negli stadi italiani? O in fondo non siamo poi così diversi dal resto del mondo? Ma esistono episodi di razzismo che sono riferibili a manipoli di persone che spesso neanche si rendono ben conto di quanto stanno facendo. È indubbiamente un fenomeno che non va sottovalutato, però non parlerei di allarme. Sì, lo chiedevo e voglio anche sottolinearlo, perché poi è successo a Busto Arsizio e, se vogliamo, è successo anche ieri all'Olimpico. Si tratta poi in realtà di poche decine di persone, in alcuni casi poche unità. Mi pare di aver capito che nello spirito della norma c'è, ad esempio, che una partita deve essere sospesa quando l'atteggiamento prevalente di uno stadio è un atteggiamento che incita all'odio razziale, e da questo punto di vista manifestazioni di dissociazione come sono avvenute a Busto Arsizio, come sono avvenute ieri all'Olimpico, hanno un peso anche da questo punto di vista. Sì, diciamo che queste manifestazioni palesi di dissociazione, se vogliamo fare un, come dire, dare una definizione, in qualche modo restituiscono dignità allo stadio, no? Dove la gran parte, la grande maggioranza si dissocia in maniera decisa dal comportamento di pochi e che quindi non può essere ritenuto il comportamento dello stadio. Quindi anche i numeri hanno un peso da questo punto di vista. Beh, certo. Quindi lei ritiene corretta la gestione di quanto accaduto ieri all'Olimpico con i bu razzisti verso i Barbo, gestiti di fatto senza sospensione della partita e poi con un annuncio dall'altoparlante nell'intervallo, poi nel secondo tempo la situazione si è normalizzata? Sì, noi lo riteniamo corretto perché questo prescrivono le norme, quindi bene ha fatto chi ha gestito in quel modo la situazione, perché le norme questo impongono. Quindi non c'erano assolutamente i margini per un atteggiamento differente. Da questo punto di vista, la richiesta del Cagliari, se non vengono sospesi questi bu, noi ce ne andiamo, fa parte, io credo, della confusione di queste giornate. Sì, bisogna stare attenti perché, ripeto, gli interessi in campo sono interessi estremamente delicati che riguardano l'incolumità delle persone, e chi svolge ruoli così importanti nel gioco del calcio, come appunto le società sportive, hanno una grande responsabilità in questo. Ecco, un altro dei temi che vengono sollevati in queste ore dagli appassionati è quello delle sanzioni per le società quando si verificano questi episodi. Io credo di essere facile profeta, penso che martedì il giudice sportivo sanzionerà la Lazio con una multa di qualche migliaio di euro, non di più. Lei ci spiegava qualche settimana fa che in realtà questo risponde a una logica precisa, non si tratta di fare lo sconto per episodi che, soprattutto se a sfondo razziale, sono episodi odiosi. No, non si tratta di fare nessuno sconto, e anche per le società sportive vale ovviamente il principio del rispetto delle norme. Anche nel codice della giustizia sportiva esistono le cosiddette esimenti, che servono per diminuire la responsabilità di quelle società sportive che hanno fatto tutto quello che era il loro potere, tutto ciò che la norma gli prescriveva, per evitare che i fatti accadessero. Quindi anche qui le norme ci sono, bisogna attuarle con grande attenzione, bisogna conoscerle e attuarle con grande attenzione, e poi allora, quando si è fatto questo, si può parlare anche di eventuali modifiche, di eventuali ulteriori interventi e quant'altro. Però parlarne prima mi sembra fuori luogo. Sì, ieri Lotito diceva che non è possibile che una società controlli singolarmente il comportamento di ogni spettatore che arriva allo stadio. Nei giorni scorsi ho letto anche un'intervista del presidente del Genoa, Preziosi, che lanciava una sorta di allarme: attenzione, perché rischiate di renderci ostaggio nelle mani degli ultra, nelle mani delle curve, e purtroppo questo è tristemente accaduto in passato e alcune inchieste lo hanno sottolineato. Ecco, appunto, le inchieste sono quelle che devono in qualche modo aiutare la società ad uscire da queste logiche ricattatorie alle quali spesso si sono nel tempo sottoposte. Le questure sono molto attente in questo e lo dimostrano appunto le indagini numerose che vanno in questa direzione e che servono proprio per liberare le società da questo pericolo. Sì, le faccio un'ultima domanda, Massucci. Ho l'impressione che questi legami, però, quelli tra le società e i gruppi ultra, si siano tutt'altro che allentati, malgrado le norme, malgrado le inchieste. Ho l'impressione che ci sia una vicinanza ancora troppo pericolosa, troppo stretta. I legami si sono sicuramente allentati, se valutiamo l'arco di un decennio, certamente si sono allentati. Ciò non significa che non ci sono, ci sono, ne siamo consapevoli, ci lavoriamo quotidianamente. E chiediamo sempre, come sempre facciamo insieme all'osservatorio, aiuto ai nostri amici del mondo dello sport, perché bisogna andare tutti nella stessa direzione, consapevoli che questi legami non portano niente di buono. Sì, gli stadi di proprietà potranno aiutare? Molto, moltissimo. È la soluzione, lo ha detto ieri Allegri prima della gara di oggi contro il Siena. Fino a che non ci saranno gli stadi di proprietà sarà difficile controllare questo fenomeno. Io dico che a Torino, stadio di proprietà, dove, e lei ce lo ha raccontato, c'è un rapporto di collaborazione ideale anche tra il Viminale e la Juventus, però in questi mesi qualcosa è successo, qualche striscione che non doveva entrare è entrato, c'è comunque una curva che è occupata senza l'assegnazione dei posti a sedere, cioè forse non tutto è come ci era stato raccontato, però certamente la situazione potrà migliorare. Diciamo che lo stadio di proprietà è gran parte della soluzione, non la soluzione. Insieme allo stadio di proprietà bisogna mettere in campo altri sforzi per evitare che questo accada. Primo fra tutti, ripeto, la conoscenza delle norme e la consapevolezza che bisogna attuarle. E da qui si deve partire. Grazie Roberto Massucci. Grazie a voi, buona serata. Grazie Roberto Massucci, che è il responsabile dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive del Viminale, e con questo speriamo di aver fatto chiarezza, perché in tanti ci state anche scrivendo al 349-238-6666 per chiedere ad esempio se davvero quello che è accaduto a Busto Arsizio potrà accadere in campionato. La risposta, lo avete sentito, è no, però parliamone. 800-24-0024 per le vostre telefonate in diretta. Ci fermiamo, o pubblicità. 800-24-0024, Giulio da Salerno, buonasera. Pronto, buonasera. Prego. A lei. Buonasera, mi sente? Sì, prego. Allora, senta, io volevo dire una cosa molto breve. Dica. Ma se ci sono questi delinquenti che vanno in giro per l'Italia a sfottere, a fare danni, ma le società cosa c'entrano, mi scusi? Perché devono pagare tutte queste multe? Beh, ma le società queste persone le conoscono e purtroppo in passato questo è emerso dall'inchiesta. Sì. Io credo che la testimonianza di Roberto Massucci, che abbiamo sentito pochi minuti fa, aiuti a fare chiarezza anche sulla difficoltà di questi rapporti con le società, la difficoltà per le società di uscire da questi rapporti, ma allo stesso tempo la necessità di un percorso che non è ancora stato completato, Giulio. Sì, ho capito, però io vedo sempre questi, ogni domenica ci sono queste frange di tifosi che danno proprio fastidio, cioè non si riesce a combattere una volta per sempre, non lo so, mi sembra tutto così astratto, non si affronti bene il problema, tutto qua. Evidentemente non è così semplice, Giulio. Lo so, purtroppo è così, però insomma speriamo che... Speriamo. La ringrazio, okay. Giulio. Buona serata, buona, buona serata a lei. Gianluca da Roma, buonasera. Salve, buonasera. Io chiamavo in merito al pallone buttato fuori dal campo dei rigori razzisti. Sì. Io comunque sì, al di là che sono cose... che non sono concepibili nel nostro mondo, e questo è sottinteso, però comunque sia noto che da parte dei giocatori non c'è più quel rigore, quell'atteggiamento insomma di serietà che un professionista serio che guadagna quello che guadagna dovrebbe avere. Sempre di più ci sono scatti, cose che i giocatori dell'epoca mia non si sarebbero mai sognati di fare. C'era un altro rispetto per la squadra, per l'allenatore, per una serie di cose. Sì, però Gianluca, non mischiamo i due campi. Io sottoscrivo quello che lei dice se si riferisce a proteste anche plateali, a momenti di tensione nei confronti di un arbitro, di un allenatore, di una sostituzione che alle volte arriva magari dopo 80 minuti in campo, quante ne abbiamo raccontate, e io questo lo sottoscrivo. Il gesto di Boateng ben venga, secondo me, purché sia chiaro che è un gesto irripetibile, e il perché lo abbiamo spiegato, perché ci sono esigenze di ordine pubblico che sono anche superiori, però è un gesto benvenuto perché ha comunque aperto il dibattito, comunque ha suscitato una discussione e anche una presa di coscienza, e da questo punto di vista io credo si sia anche aspettato troppo. Grazie Gianluca. Elio da Bergamo. Elio, buonasera. Buonasera. Prego. Mi chiamo per due considerazioni. La prima è che il gesto di Boateng a me va bene, però mi sembra che questa è pura demagogia. È facile farlo contro la Propatria, il Sizio, bisogna farlo su altri campi, innanzitutto. E poi dire va un gesto significativo, ripeto, è facile farlo contro la Propatria inamichevole, bisogna farlo quando le partite contano, primo. E secondo che voglio dire è che la società con questa gente qui è connivente, basta vedere, inutile che quel signore che parlava prima, che non so, il responsabile dell'osservatorio. Sì, è il numero uno dell'osservatorio delle manifestazioni sportive del Viminale, per intenderci, quello che lavora con le società per cercare che venga garantita l'applicazione delle leggi italiane all'interno dello stadio. Prego Elio. Infatti, io racconto un sacco di banalità, cose che non dicono no, niente. A me non sembrano banalità, però, mi perdoni Elio, dica. No, voglio dire, sono banalità per il semplice motivo che sono cose che si sanno, che le regole ci sono, ma non le applicate, bisogna stare attenti a non applicarle per andare incontro ai problemi. Ci sono le regole, ma si dice di non applicarle. E poi si viene a dire che i tifosi della società hanno allentato con il verso questi gruppi di tifoseria. Non è vero, perché mi risulta fino a poco tempo fa, Preziosi, una cosa di Preziosi, mi risulta che i tifosi si sono fatti consegnare le maglie da 11 giocatori in campo. Non c'è dubbio. Non dieci anni fa, l'anno scorso. Le dirò di più, un mese fa sono anche andati al campo d'allenamento, accolti con tutti gli onori, a restituire simbolicamente la maglia numero 12, e evidentemente il Genoa sa chi sono quei personaggi, così come lo sanno tante altre società, e difatti il Viminale non ha detto che i rapporti non esistono più, ha detto che certi rapporti si sono allentati anche grazie alle inchieste della magistratura, ma resta comunque una zona grigia, un percorso che non è ancora concluso e che anche a costo di essere esposti a minacce e a ritorsioni i nostri dirigenti, le nostre società dovranno completare, e un pezzo di quel percorso sono gli stadi di proprietà, che sono però un pezzo della soluzione e non la soluzione. Grazie Elio. Steve dalla provincia di Modena, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, premetto che io non sono un tifoso perché considero il calcio uno sport da italiano medio. Sì, beh, insomma, e quindi uno sport credo da 40 milioni di italiani. Per una serie di motivi che non sto qua a elencare. Sì. Comunque, per il discorso di Boateng volevo intervenire perché comunque mi sembra un gesto clamoroso. Cioè, una persona che dovrebbe giocare a calcio solo perché uno gli fa bu bu, adesso se salta fuori il discorso razzismo, neanche gli avessero detto negro di M. Sì, ma cioè, a parte il fatto, mi scusi Steve, poi la faccio concludere, cosa, non c'è nessun problema. Il razzismo, cioè quella gente lì dovrebbe giocare, quei soldi che prende dovrebbe star zitto e giocare. Ma io invece credo che la sensibilità, credo Steve, che la sensibilità delle persone, a prescindere dal loro conto in banca, sia da rispettare, e credo che sul razzismo, che si tratti di un bu o di un insulto anche più pesante, non si possa giocare, non si possa scherzare, ma del resto lo impongono le leggi, lo ha spiegato Roberto Massucci. L'incitazione all'odio razziale è un reato penale, non è una questione di regolamento sportivo, e quindi a me questo tipo di approccio al discorso non piace. Dopodiché, e l'ho detto e lo ripeto, non mi è piaciuto nemmeno l'approccio che è stato dato a queste giornate, cercando di far passare la considerazione che questo gesto fosse replicabile e di per sé potesse essere la soluzione. Questo io dico, Steve. Ma secondo me ci sono problemi più grossi in Italia che queste cose qua, come milioni di persone che sono senza lavoro. Sì, ma io non c'è dubbio, ma voglio dire, perché uno gli fa bu, ma lui deve andare a zappare la terra forse. Ma insomma, secondo me lui può serenamente lamentarsi perché qualche idiota gli fa bu e gli dice anche peggio, e noi serenamente possiamo parlarne, anche nella consapevolezza che in questo momento in Italia ci sono certamente problemi maggiori. Grazie comunque. Boabid da Padova, buonasera. Sì, salve, buonasera. Prego. Io volevo fare i complimenti per la risposta che ha dato all'ultimo ascoltatore, perché veramente se tutti la pensassero come lei ci sarebbe sicuramente molto meglio. No, ma insomma si può anche avere una varietà di opinioni, Boabid, no, non è un problema, insomma. Minimizzare sulle cose non è molto bello, perché comunque io sono brasiliano e so cosa vuol dire subire delle cose razziste, non è bello. Comunque non era questo di cui volevo parlare. Prego. Volevo solo fare i complimenti. Io volevo chiedere, volevo fare una domanda sul Milan, sul mercato. Sì. Io ho paura che il fatto che abbiano tolto Robinho dal mercato vorrà dire che per noi, cioè per il Milan, non ci saranno acquisti. Può essere, almeno. Abbiamo sentito prima Franco Ordine, soprattutto in attacco. Sì. Ecco, ma io volevo dire, ma in attacco secondo me il Milan è abbastanza a posto. Il problema più grande secondo me è la difesa, e il centrocampo un po' meno, ma la difesa veramente... Perdere un giocatore come Thiago Silva e rimpiazzarlo con Acerbi e compagnia non è proprio il massimo. Sì, tra l'altro esiste anche un problema di infortuni. Oggi il Milan giocava con Acerbi e De Sciglio centrali ed è evidente che si tratta di una soluzione di emergenza. Prego. Sì, volevo dire, ma io fossi in Allegri farei giocare di più Zapata, perché secondo me Zapata è il centrale più forte che abbiamo, secondo me. Però vabbè, questa è la mia opinione. Boh, volevo sapere se magari si potrebbe fare qualche acquisto in difesa o in centrocampo. Io credo, Boabid, che lo scenario sia quello disegnato prima da Franco Ordine, che le cose del Milan le conosce bene, le conosce da vicino, e cioè se Robinho non parte, e a questo punto difficilmente partirà, in attacco non arriva nessuno, e negli altri ruoli arriverà qualcuno a fronte di partenze, e quindi io credo possa essere guardata con interesse l'offerta dalla Russia per Abate, che eventualmente libererebbe una decina di milioni di euro da reinvestire, ma non credo su un centrale, più facile su un altro esterno o magari su un paio di giocatori, un difensore e un centrocampista. Però i margini di manovra del Milan sul mercato di gennaio sono questi. Diverso era il discorso in caso di partenza di Robinho, perché probabilmente il Milan avrebbe fatto l'operazione Balotelli. Ne parlavamo ieri anche con Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, però vediamo, perché il 6 gennaio e la strada da qui al 31 è molto lunga, e quindi può anche essere che quello che oggi appare chiuso, come ad esempio la trattativa con il Santos, possa in qualche modo riaprirsi. Grazie comunque. Giuseppe dalla provincia di Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Volevo inserirmi nel discorso che quanto riguarda Boateng e i Bu che sono stati detti. Dica. Io ho 71 anni, in gioventù ho fatto l'arbitro di calcio federale, eccetera, fino alla Serie D, quindi ne ho arbitrate di partite, e in cui c'erano, non i Bu allora, perché non c'erano purtroppo gente di colore che giocava, ma c'erano altre motivazioni per cui si dicevano parolacce o altre cose ai giocatori. Allora, non mi sembra giusto né enfatizzare quello che è successo, né però sminuire e il fatto, perché i figli delle mamme così sempre incinte, che sono sono comunque un comportamento da cancellare. Allora, se noi diciamo che alla radio le assicuro, complimenti peraltro, grazie, che siamo in tanti ad ascoltarvi. Ebbene, quei signori che sentono qualcuno che dice vabbè, tutto sommato cos'è successo, non hanno mica detto questo, non hanno mica detto quello, le assicuro che come arbitro, e quindi avendo fatto almeno 150 partite in mezzo giocatori, che per tanti motivi si innervosiscono già per il fatto che giocano, per il fatto che subiscono un fallo, eccetera, sentirsi prendere anche in quel modo lì, insomma, li sminuisce anche ma di fatti a me non piace quell'approccio. Io credo che con la sensibilità delle persone non si debba discutere, anche se hanno un conto in banca 6, 7, 8, 9 zeri. Poi bisogna chiedergli un comportamento da professionisti, perché è evidente che chi fa il calciatore, chi è un personaggio pubblico, deve avere una soglia di tolleranza, perché sa che questo è il mondo in cui pratica il suo lavoro, esattamente come, a mio parere, ad esempio un cantante, un politico deve sapere che avrà una soglia di privacy più bassa rispetto a quella di una persona qualsiasi, però poi non si può minimizzare. Io su questo sottoscrivo in pieno quello che ha detto lei, e mi interessa anche sapere che cosa ne pensate di queste parole di Zeman. Sentiamo Zeman ieri. Zeman, no, non c'è. Facciamo prima il traffico allora. Traffico. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. I presidenti dei club sono complici perché a loro servono gli ultra, per esempio quando se la devono giocare a livello politico, e infatti esistono ancora questi legami e sono legami pericolosi, ne abbiamo parlato. E poi ancora, siete troppo favorevoli al minimizzare i cori razzisti. Io invece ai cori razzisti sospenderei le partite e darei partita vinta, ha detto, scrive al 349 238 6666 Daniela. Noi non minimizziamo nulla, semplicemente abbiamo cercato di spiegarvi perché il gesto di Boateng è irripetibile, soprattutto in una partita ufficiale. Vi avevo annunciato le parole di Zeman ieri, che stanno facendo discutere sul tema del razzismo, e allora sentiamo Zeman. Sicuramente il gesto di Boateng, se lo fa un altro, viene espulso automaticamente. E valutare è difficile, io continuo a dire che ci sono anche nelle partite solo tra i bianchi tanti cori, tante offese, e si continua a giocare. Il problema mio è generale, nel senso che sul campo sono tutti uguali, o è giallo, o è nero, o è bianco, quindi poi valutazione di quale offese sono più difficili, più importanti. Io non riesco a fare distinzioni. Perché lei è normale che il discorso è che bisogna cercare di eliminare, se elimina, per me è questione di educazione prima e secondo poi di controllo e di far venire gente allo stadio, quelli che vogliono vedere la partita. Questo Zeman, Boateng ha fatto benissimo ad andarsene, dire il contrario è minimizzare ed è vergognoso. Noi non stiamo dicendo il contrario, noi vi abbiamo spiegato perché in questo momento, e io credo anche in futuro, del resto Roberto Massucci l'ha secondo me chiarito in maniera evidente, il gesto di Boateng è irripetibile, soprattutto in una partita ufficiale. Intanto saluto Dario Ricci di ritorno. Ciao, da Giovanni. San Siro, ci siamo sentiti, è stata, io credo da questo punto di vista, un pomeriggio di festa oggi a San Siro. Sì, però l'atmosfera che ho percepito era un po' straniante, perché personalmente mi sarei aspettato di più, no? Da parte della curva per Boateng, forse di più, ma il Milan già molto lo aveva fatto. Secondo me il pomeriggio di oggi va analizzato meglio, a mente più fredda, perché una cosa è sicura, noi di questa mentalità delle curve ne parliamo molto, ma conosciamo ancora poco. Saluto Luca Banchi, ci spostiamo, parliamo di pallacanestro, coach della Montepaschi Siena. Buonasera coach. Buonasera. Possiamo dire, così poi chiudiamo l'argomento razzismo, che però almeno un pregio quello che è successo giovedì a Busto Arsizio è che abbia riacceso i riflettori su questo tema? Beh sì, è giusto che non se ne smetta di parlare. Fa specie sentire che ancora ci siano episodi di questo tipo. Sarebbe sicuramente più opportuno potersi concentrare soltanto sugli eventi e su quanto gli atleti sanno far meglio, cioè che sono le loro performance sul campo. Purtroppo l'ignoranza di pochi sembra non aver confini. Se noi abbiamo provato a spiegare alla gente a casa che poi non è nemmeno da fare il conto sul conto in banca degli atleti, dei calciatori, può essere anche dei giocatori di pallacanestro, perché con la sensibilità, soprattutto quando si parla del colore della pelle, di questioni razziali, con la sensibilità non si possono fare sconti, non si gioca, anche se uno è un miliardario. Ma no, tutt'altro, il fatto che lo siano è semplicemente legato e direttamente conseguente al loro talento primo e all'interesse che suscitano le loro performance. Quindi nessuno diventa mai miliardario se non c'è l'interesse di tutti perché ciò accada. Quindi riempire gli stadi è frutto del talento di questi atleti, e chi si appassiona alle loro gesta diventa in qualche modo complice dell'interesse che c'è attorno a questi ragazzi, quindi non se ne può fare certo una colpa il fatto che poi siano dei miliardari e magari venga fuori qualche distonia nel loro carattere, nel loro modus operandi, nel loro stile di vita, che talvolta è frutto di una cultura relativa, di un'educazione relativa e magari di una ricchezza eccessiva che arriva molto presto, ma questo non giustifica certamente altri aspetti che riguardano la loro sensibilità o, come detto, provocazioni che riguardino l'aspetto razziale. Siamo tutti complici del fatto che lo sport è da sempre storicamente un motivo di interesse di molti e gravitano soldi attorno a questo ambiente che permettono ai giocatori di maggior talento di essere ricchi, ma non per questo possono essere al centro di episodi come questo. Di essere giovani, belli, ricchi, magari anche viziati, ma non quando si parla del ribrezzo verso manifestazioni di questo genere. Sottoscrivo prima all'ultima parola, Banchi, dalla prima all'ultima parola. Parliamo di pallacanestro però, rapidamente, siamo intorno alla metà del secondo quarto sui campi della Serie A e allora Varese avanti di 3 punti a Pesaro, 27-24, poi 32-26 per Venezia su Avellino, sta vincendo 34-23 in trasferta a Reggio Emilia sul campo dei Cremona e poi Roma avanti al 14esimo 20-9 contro Biella e poi particolarmente equilibrata la sfida tra Juve Caserta e Banco di Sardegna a Sassari, 17esimo minuto 35-34 per Sassari, alle 20 il derby tra Milano e Cantù e poi domani sera invece Monte dei Paschi Siena, Sutor Montegranaro, perché Siena è reduce dalla straordinaria impresa di Istanbul dove tra l'altro c'era anche il nostro Dario Ricci e che io credo in questo momento, coach Banchi, rappresenti un po' il fiore all'occhiello per il nostro basket, almeno in questa prima parte di stagione. Beh, siamo rimasti l'ultima squadra italiana a rappresentare il nostro paese in ambito continentale, un motivo di grande soddisfazione, al tempo stesso qualcosa che deve far riflettere, perché ci sono viceversa paesi come la Spagna che sta attraversando comunque come noi un momento molto difficile dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, che riesce comunque a esprimere delle eccellenze e hanno addirittura 4 club a rappresentarli nell'ultima fase, quella con le migliori 16 compagini continentali. Noi siamo rimasti un po' l'ultimo baluardo italiano dopo l'eliminazione di Milano, di Cantù e poi anche quella di Sassari in Eurocup e stiamo cercando di tener testa a squadre che chiaramente hanno ben altre tipologie di organici e altre potenzialità economiche, però siamo riusciti, nonostante tanti cambiamenti, a costruire abbastanza velocemente una buona identità, quella che ad oggi ci permette dopo 2 giornate di essere a punteggio pieno, ribaltando un po' quelli che erano i pronostici della vigilia che ci vedevano considerati un po' in coda al nostro girone. Un però un po' la Cenerentola del girone, Dario. Ecco coach, passate dalla sfida esaltante della serata fantastica di Istanbul con Pianigiani, il vostro recentissimo e ipervincente passato, a quella con Recalcati, che è lo scudetto che ha regalato a Siena, è il coach che ha regalato a Siena il primo scudetto. Ecco, come si ricaricano le pile dopo un'impresa di quel genere a livello nervoso? Perché sono partite come quella col Fenerbahce, cioè quella col Maccabi, che in cui forse il dispendio mentale è ancora superiore a quello pur impressionante dal punto di vista fisico. Beh, se ci si ferma all'aspetto mentale, chiaramente bisogna cercare di far visualizzare alla squadra quelli che sono anche i nostri obiettivi stagionali, che non sono certamente legati soltanto alla partecipazione all'Eurolega. In campionato abbiamo degli obiettivi obiettivi di lungo termine, come quello della partecipazione al playoff, a breve termine quello di chiudere il girone di andata. Mancano due giornate, nella miglior posizione possibile, perché è vero che abbiamo già acquisito la qualificazione alle top 8 di Coppa Italia, ma vogliamo arrivarci con il miglior posizionamento possibile. Andiamo in campo domani con la speranza, o meglio, per tener viva la speranza di poter centrare il secondo posto, e sarebbe sicuramente un risultato di grandissimo rilievo visto il doppio impegno che abbiamo, ma soprattutto perché in campionato, dopo 6 vittorie consecutive, siamo reduci dalla sconfitta di Venezia. Allora vogliamo dare un segnale chiaro che questo trend deve interrompersi, ovvero giocare partite così dure, così intense come quelle di Eurolega non significa che dobbiamo abbassare la guardia in campionato. Siena storicamente è un club di vocazione europea e da sempre ha dimostrato di poter competere su entrambi i fronti. Non abbiamo un roster paragonabile a quello del passato, però l'obbligo è quello di cercare di reclutare più risorse possibili dalla squadra, da questi giocatori, per arrivare a esprimere la stessa qualità di gioco, la stessa intensità di gioco anche a poche ore di distanza, come andrà domani sera contro Montegranaro. Posso chiederle, coach, e poi la salutiamo, una risposta flash, se queste due vittorie nelle prime due partite del girone in qualche modo cambiano anche le prospettive sull'Eurolega? No, non possono, perché è un girone a 14 partite, quindi il cammino è troppo lungo e le concorrenti sono troppo forti per pensare che dopo due vittorie noi possiamo pensare di aver modificato il nostro status. Danno grande soddisfazione e mi auguro che siano patrimonio per il futuro su cui investire e prendere coscienza e consapevolezza del fatto che siamo sulla buona strada, ma ancora il processo di affermazione di questa squadra come un gruppo vincente è ancora lungo da definire. È ancora lungo da completare. Grazie a Luca Banchi, allenatore della MPS Siena. Noi siamo in chiusura, Dario. Ricordiamo l'appuntamento 20:30 Pallaspicchi. 20:30 Pallaspicchi. Perché il derby di Milano è importante. Milano rischia di star fuori dalla Final 8 di Coppa Italia. Importantissimo anche per le novità che presenta Milano. Marquez Green su tutti. E poi intervista con il coach della nazionale Pianigiani dagli spogliatoi di Istanbul. Molto interessante. Quindi da non perdere alle 20:30 Pallaspicchi. Invece, a Tempo di Sport finisce qui. E finisce davvero, perché il girone di ritorno di questo campionato, il resto della stagione, tutto insomma, vi sarà raccontato in modo diverso da Radio 24. Da domenica prossima cambia tutto. E allora un saluto a chi si è alternato in questi mesi alla parte tecnica e oggi a Paolo Corleone, a Pietro Lacorte. Un particolare ringraziamento mio personale a Giorgio De Luca, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Lo sport però di Radio 24 non si ferma qui. Pallaspicchi 20:30, domani alle 14 torna Carlo Genta con tutti i convocati.